È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Stupidaggini, caro Parenzo, sulla vicenda Amanda è libera, sì, di Alfa, di Albe, sì, di Alfano, di Albano. Albano, in realtà è un lapsus questo qua di Alfano. È tutto finito se mi metti Albano all'inizio. No, lo sai perché? Lo sai perché mi è scappato Alfano invece di Albano? Sì. Io spero che una volta Alfano si metta a cantare Albano, adesso mi confondo tra i due, no? Però in realtà, prime stupidaggini, dicevo, sulla vicenda di Amanda Knox e Raffaele Sollecito, da parte della politica. Perché oggi l'ex ministro della giustizia, segretario del PDL, insomma segretario politico del PDL, quello che volete, segretario del PDL. Questo è segretario del PDL. Berlusconi, il capo, sarà stato nominato da Berlusconi, ma anche in realtà dal partito raccolto in assiso, è il segretario del PDL, adesso non ironizzare su questo. No, non voglio contestare. Allora, cosa ha detto Alfano? La sentenza di assoluzione di Amanda Knox e Raffaele Sollecito fa pensare che in Italia per gli errori giudiziari nessuno paga. Capito? Vabbè, ci voleva questa stravata. Ma che vuol dire? Non hai un commento pronto su questo, però. Non hai ma un che commento. Vuol dire? Ma che vuol dire? Oh, ecco, finalmente ti riconosco. Ma che cosa vuol dire, signor Alfano? Ma che dice? Ma che cosa? Chi è che deve pagare? Adesso chi è che deve pagare? Il PM ha registrato una sentenza di primo grado con una condanna. E una seconda con la soluzione. E ci sono state evidentemente delle perizie sbagliate la prima. Ma chi deve pagare? Quelli... la prima volta. Ma di che parliamo? Ma di che stiamo parlando? Di cosa parliamo? C'è da dire che la giustizia italiana nel suo complesso in questa vicenda non è che abbia fatto una bellissima figura, la storia delle perizie, le cose, comunque. Beh, certo, ma è un processo indiziario, ma questi non sa neanche la difesa. Allora, senti questa che è grossa. Tremonti oggi poi ha un po' rettificato, eccetera. La Spagna sta meglio perché c'è stato l'annuncio delle elezioni, in sostanza è questo che ha detto. Senti. Allora lei deve chiedere perché negli ultimi giorni la spesa di alcuni paesi è cresciuta enormemente. Varia molto, insomma, il caso della Spagna secondo me dipende anche dall'annuncio di elezioni, che di per sé sono una prospettiva di cambiamento e quindi un'apertura di futuro, no? Hai capito? Poi ha detto non mi riferivo all'Italia, gli hanno fatto la domanda, dunque si dovrebbe votare in Italia, ma io non volevo dire questo, eccetera. Comunque la cosa l'avete sentita voi dalla viva voce di Tremonti. Tremonti ha detto, beh insomma, il fatto che lo spread della Spagna va meglio rispetto a quello italiano dipende dal fatto che c'è stato un annuncio di elezione, dunque da una prospettiva di cambiamento. E certo, siccome lo ha detto Tremonti... ma questo può anche essere. Non lo so, se comunque si discute certamente di questa frase proviamo di Tremonti. Proviamo anche in Italia? Proviamo anche in Italia? Vediamo che succede? Proviamo! No, non lo so, dico. Va bene, senti questo invece del signor Zagrebelsky. Mi sento in grande forma, stasera. Beh, insomma, combatto. Il signor Zagreb. No, scusami. Signor Zagrebelsky, hai ragione. Presidente di Giustizia e Libertà. Bravo, hai fatto bene. Che fanno la solita fanno la solita kermesse anti-Berlusconi, mi sembra sabato, no? Da qualche perché parte. Perché non facciamo tutta una puntata monografica solo col professor Zagrebelsky? Ma vuoi ammazzare la zanzara, allora? Vuoi uccidere la zanzara? Vabbè, due ore di lezione di diritto del professore. Comunque sentiamo. Che in questo caso però ha detto una minchiata, secondo me, sentiamo, su Berlusconi. Senti questo, ne dice tante su Berlusconi di minchiate, secondo professore. Me. Il professore. Ne aggiunge un'altra in questo caso, senti. Se guardiamo un po' indietro, vediamo atteggiamenti di corruzione dei principi del cattolicismo. Quando si dà la comunione al Presidente del Consiglio, perché si dice non è più sposato, ma insomma, questi sono comportamenti. Allora, voi avete mai visto... Cioè, secondo Zagrebelsky, la Chiesa non dovrebbe dare più la comunione a Berlusconi. Insomma, ha ragione. Ma falla finita, su. Ma non, no, voglio nemmeno sentirle queste cose. Non voglio ma nemmeno sentire. Ma dal punto di vista del diritto ha ragione. Posso dire che ma che diritto? Ma quale diritto? Scusami, senti, Fede, un principe, aspetta, che ho, vero, ho, ma ho un ospite. Ne discutiamo dopo. Ho un ospite, non dire stupidaggini. No, ma non è solo per l'ospite. Che prima voglio farti sentire Fede, Emilio Fede, che dice: prima che la Boccassini è erede di Pietro. Tra l'altro, oggi la Boccassini ha detto una cosa interessante. Che le fa una certa impressione negativa, dico io, vedere le intercettazioni pubblicate sui giornali. Una cosa che, insomma, secondo una certa prospettiva che vede la Boccassini come una di quelle che magari diffonde le stesse intercettazioni, è un po' rivoluzionaria. Non mi arrenderò e non mi toglierò la vita come vorrebbe qualcuno. Emilio Fede, ieri sera. Io non mi arrenderò, ci mancherebbe altro, sono forte della mia verità e spero di andare presto dove? Davanti a un tribunale, a quel tribunale che guarderà la verità. In passato, con Tangentopoli, persone hanno pagato anche con la vita, cioè si sono tolte la vita perché erano state ingiustamente accusate. Io non lo farò. Resto con i miei colleghi, resto con voi, perché so che voi mi credete. Beh, per carità, poi evidentemente ci ha pensato, forse, in qualche, no? In qualche parte recondita della propria mente. Beh, c'è la questione della comunione, non vogliamo affrontare la questione della comunione a Berlusconi, per carità, dai, non è un tema su Parenzo. Ma non è un tema, ma è una cosa vera, che non è che ha detto una falsità, perché per la religione cattolica i divorziati non possono ricevere. Ma non è che abbiamo detto che abbiamo vabbè. Chissà che cosa. Paolo Gentiloni, buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Come abbiamo sta, signor Gentiloni? Abbiamo sbagliato a farlo aspettare, allora. Perché abbiamo sbagliato a farlo aspettare? No, con questa stupidaggine della comunione a Berlusconi. Farlo intervenire, vabbè, insomma, subito, ha ragione il signor Zagrebeschi, oppure il sottoscritto, che per carità è una persona un po' diversa da Zagrebeschi, non ha la statura di Zagrebeschi, però non le pare una stupidaggine questa cosa che ha detto il professor Zagrebeschi, Gentiloni? Ma l'ha detta in modo un po' rapido, ma penso che sia così. Io anche lei, se vuoi dire, ma non è un'opinione, è un fatto, è la legge della Chiesa. Vabbè, ho capito, però poi lo uno sa, può essere d'accordo o meno, ma lo sa quante persone non bisognerebbe dare la comunione, allora, un sacco di gente. Cioè, eppure non è che uno va là prima di fare la comunione e dice: scusi, lei è divorziato oppure lei ha commesso dei peccati? È diritto ecclesiastico, che dico? Uno può essere più o meno d'accordo, immagino che ci siano anche dei cattolici praticanti che invece avrebbero preferirebbero una regola più benevola, più tollerante, ma la regola è questa. Lo stesso Berlusconi più volte ha chiesto indulgenza a questa regola, insomma. Sì, vabbè, comunque, insomma, non mi pare una questione fondamentale. No, non è fondamentale. Paolo Gentiloni, dirigente autorevole del Partito Democratico, qui chiedo subito una risposta molto chiara. Ci sono due persone, no? L'opinione pubblica, diciamo, si divide: quelli che pensano che Marchionne sia un rivoluzionario, che vuole cambiare i rapporti di lavoro che ci sono in Italia, facendoli diventare più moderni, e quelli che stanno invece con la signora Camusso, la quale dice: no, Marchionne, tu ci vuoi riportare nell'Ottocento. Lei non mi faccia quello che sta un po' tra i due, così. Con chi sta? Ma io, mettiamola così, ho apprezzato la rivoluzione di Marchionne, a parte perché Marchionne ha salvato la Fiat. Sì. Ricordiamoci com'era la situazione 7-8 anni fa. Sì. Penso che abbia anche ragione a proporre all'Italia alcune compatibilità del mercato mondiale dell'auto. Sì. Negli ultimi mesi però temo che la sua testa si sia molto spostata oltre Atlantico, quindi sì. Sono nostalgico della rivoluzione di Marchionne. Del temo primo Marchionne. Insomma, Marchionne, se non sposta tutta la Fiat in America, verrà ricordato come quello che ha salvato la Fiat. E certo, se invece venisse ricordato come l'uomo della Chrysler, per noi italiani non sarebbe una meraviglia. Beh, insomma, però non ci si poteva fare illusioni su Marchionne, cioè che fosse diventato il capo del governo, cioè è pur sempre il capo di un'azienda che fa gli interessi della sua azienda, su questo non c'è dubbio. Ma io non sto discutendo la vicenda Confindustria, sono problemi loro, non è che un'azienda è liberissima di abbandonare, ho visto che anche le cartiere Pigna hanno abbandonato la Confindustria. Sì. Un'azienda è liberissima di abbandonare la Confindustria, ovviamente per Confindustria è un problema serio, certo, di indebolimento dell'associazione. Sto parlando di un'altra cosa, sì, cioè Marchionne mi va benissimo finché pone il problema della sì, produttività necessaria per salvare gli stabilimenti, mi va bene anche Marchionne quando vuole riformare il mercato del lavoro, nuovi contratti, propone, cioè. propone le sue detta un po', ahimè, le sue condizioni, e io penso che siano condizioni inevitabili, e mi va meno bene se tutto questo però varca l'oceano, ecco. Senta, però allora sbaglia la Camusso quando dice che un uomo dell'Ottocento ci vuole riportare all'Ottocento, questa è una follia. Sì, non sono d'accordo. Ma il PD non è un po' troppo... PD è un po' troppo sotto Scacco, no, Scacco è sbagliato. No, Scacco no, però non è troppo dietro la linea della CGIL da questo punto di vista? Ancora una volta, cioè non c'è questo cordone ombelicale, ancora non si è spezzato, diciamo la verità, Gentiloni. Ma quando ci fu la vicenda del referendum alla Fiat, il PD aveva tre o quattro linee diverse, a onor del vero. Appunto. C'erano importanti dirigenti, uno è l'attuale sindaco di Torino, Piero Fassino, che erano chiaramente dalla parte della scelta di Marchionne. Sì, sì. Poi c'erano posizioni intermedie e c'era chi stava con più con la posizione della Fiom. Della Fiom, sì. Non si è risolta. Comprendendo le storie diverse di quelli che fanno parte del PD, la cosa non mi sorprende. Io ho un'idea del PD come veramente di un partito in cui c'è un partito abbastanza multicolore. Questa cosa non mi spaventa, devo dire. Invece un partito allineato e coperto sulle posizioni della CGIL mi preoccuperebbe. Però l'impressione è quella, al di là delle articolazioni interne, eccetera. L'impressione... E questo poi ci porta al tema delle alleanze, caro Cruciani. Sì, quando ho visto, per esempio, nell'ultimo sciopero generale indetto dalla CGIL, nel quale CGIL e CISL se le sono suonate. Sì. Mi ricordo Camusso che diceva Bonanni sì. sull'orlo di una crisi di nervi e viceversa. Ecco, che il PD abbia preso partito schierandosi apertamente da una parte è stato un errore. Non va bene, perché noi dovremmo essere il partito che dialoga con tutti, Confindustria, sindacati, non c'è più il partito della classe operaia e ancora meno della CGIL. Senta, dunque, per concludere questo discorso con una cosa abusata, lo so che è un'invenzione giornalistica che spesso non viene seguita perché pone di fronte ad una scelta, e se uno deve guardare alla prospettiva di un domani, lei tra Marchionne e la signora Camusso, chi butta giù dalla torre? Lo so che è fastidioso ogni volta rispondere, eccetera. Sceglie Marchionne, mi sembra di capire. Io sospendo il giudizio. Ma come sospende il giudizio? 3 mesi fa avrei sposato le tesi di Marchionne. Oggi ho paura che la crisi economica micidiale degli ultimi mesi stia spingendo la Fiat fuori dall'Italia. E questo da italiano, al di là della politica, non lo posso accettare. Però questo faccio fatica, pur avendo condiviso molte scelte di Marchionne, oggi a dire sto con Marchionne. Allora, perché sta tradendo un po' l'Italia, questo dice, cioè sta tradendo anche la... Sì, capisco tutti i motivi, la crisi eccetera, però alla fine se Marchionne tradisce e l'Italia. La famiglia Agnelli mollano l'Italia e si trasferiscono armi e bagagli tra Brasile e Stati Uniti, beh insomma per l'Italia è una sberla. Traditore, non possiamo traditore. Allora abbiamo il traffico, torniamo subito. 800 24 00 24. Devo farti ascoltare pure un Beppe Grillo, caro Parenzo. No, ma non ce n'è bisogno di Grillo. Lo so che non ce n'è bisogno, lo so, però ogni tanto il nostro anti-grillismo. Tanta confusione. Il nostro anti-grillismo lo vogliamo tirare fuori ogni tanto oppure si spegne? Ogni tanto Grillo ci dà occasione per tirarlo fuori. Per cui sentiamo una cosa che vedrai che ti farà venire il sangue al cervello. Grillo ieri sera. Non so dove, vabbè, per i 2 anni del Movimento 5 Stelle, senti questa, Parenzo, se entriamo in Parlamento sono morte, a un certo punto ha preso un finto cervello, ha cominciato a mangiare il cervello, una cosa pazzesca. Senti. Io vi prometto che se entriamo una trentina di noi, di voi, di ragazzi, di cittadini veramente determinati e informati dentro il Parlamento, sono morti. E allora prendiamo il loro cervello e ce lo mangiamo. Ma non erano già morti prima, tra l'altro? Cioè, sono morti o sono morti solo quando entra in Parlamento il 5 Stelle? Muoiono di continuo tutti quelli che sono in Parlamento. Cioè, poi una scena orrenda, questo cervello con Grillo che lo mangia, una cosa assurda. Però è vero che i ragazzi, quelli che sono nelle istituzioni di Grillo, sono i migliori del loro guru. Sono meglio di Grillo, forse, in alcuni momenti. Assolutamente sì, perché sono persone per bene, brave, preparate. Quindi non tutti, non tutti. Comunque. No, sono bravi ragazzi. Senta, voglio chiedere una cosa a Gentiloni, ed è questa. Secondo lei il Partito Democratico non dovrebbe adottare come suo programma la lettera di Trichet e Draghi, la lettera che questo poi abbiamo... Beh, adesso c'è chi lo indica come Belzebù. Adesso adottarlo come programma, no, forse è troppo. Adottarlo, non dico alla lettera, però per... io dico che le cose che scrive quella lettera e che si possono in buona parte rintracciare anche nelle considerazioni finali che Draghi ha fatto spesso, sì, il governatore, certo, della Banca, certo, d'Italia in questi anni, sono un terreno obbligato anche per un governo di centrosinistra. Non è che arriva un governo di centrosinistra e pensa che di quelle cose si può fare a meno. Semmai è il governo attuale che, se andiamo a vedere, ha fatto le decisioni l'opposto, prese, sì, nella manovra, e quello che sollecita quella lettera, mi sembra che abbia fatto ben poco. Quindi ma qui in campagna elettorale dovesse dirlo, c'è il nostro Trichet, programma economico, sono i nemici. Sì. Ma secondo me forse non ha chiara qual è la dimensione del problema che abbiamo col debito pubblico e con la crisi. No, però voglio dire, da questo punto di vista, secondo me il Partito Democratico dovrebbe dire una cosa chiara, cioè quelli sono alcuni dei punti del nostro programma, esattamente quelli enunciati in quella lettera. Lo dovrebbe fare, secondo lei? Comunque, ieri Bersani ha detto una cosa che credo sia condivisibile, cioè che la lettera di Trichet e Draghi si rivolge a un'assenza, cioè l'assenza di una strategia del governo italiano. Vabbè, quello a quella crisi è chiaro, bisogna vedere io se poi uno la adotta come proprio questa cosa che ha detto Bersani, sono d'accordo. Senta, molti sperano, però vedi, sì, lo dico anche a Gentiloni, sì, è che quella lettera lì, che Gentiloni secondo me condivide al 101%, la faccia un governo tecnico, perché è difficile che un governo politico dicendo sì si assuma la responsabilità. Vabbè, adesso andiamo oltre. Volevo chiedere a Gentiloni una cosa. Se si vota nel 2012, chi è il candidato del centro-sinistra? O comunque chi è il candidato del Partito Democratico? Ma pronto? Diciamo. È Bersani, è scontato che sia Bersani? Per statuto è Bersani. Però? Può darsi che si facciano avanti altre candidature, noi che siamo gli inventori delle primarie ce la caveremo con le primarie. Cioè ci dovrebbero essere delle primarie all'interno anche del Partito Democratico? No, che si arrivi a delle primarie non c'è dubbio. No, non di coalizione, anche del PD. La Bindi, no, io dico solo che se adesso, senza fare tre turni di primarie come se fosse la fase finale del campionato di basket, io direi semplicemente che se si va a delle primarie e si vogliono candidare altri importanti esponenti del PD, che facciamo? Li cacciamo dal partito? A prescindere dallo statuto, insomma. Beh, penso di sì. No, questo è interessante, perché lei in primarie tra Renzi, Vendola e... stiamo ipotizzando, no? Renzi, Vendola, Bersani, chi potrebbe? Vedremo, per il momento... Come vedremo? Mica se la può cavare così, vedremo. Bersani, che è l'unico candidato del PD. Beh, d'accordo, se ce n'è uno solo è difficile che lei ne voti un altro. Ma la candidatura di Renzi è indispensabile, secondo lei, per rinnovare, per una figura nuova, eccetera? Le primarie, sto dicendo, Ma io sono... Penso che Renzi abbia fatto ottime cose, e bisogna vedere se lui ha voglia di buttarsi. Mi sembra di sì, oppure se vuole restare a fare il sindaco di Firenze. Mi sembra che l'abbia detto ormai specificamente. Ma farlo o no? Lo decide Renzi. Io lei fa il tifo per del male, lei fa il tifo, diciamo, per questa posizione, in una dinamica interna di partito, eccetera. Però fa il tifo per questa soluzione, diciamo la verità, Gentiloni. Adesso non nascondiamoci una cosa. Se Renzi faccio il tifo, ripeto, perché non voglio far del male a nessuno. Appunto, dico però se qualcuno si candida, saranno le primarie a decidere. Ma Renzi cosa fare da grande lo deve decidere lui. Tra Renzi e Bindi chi sceglie? Non gioco. Non gioca? Non senta, la fotografia di fa troppi nemici. La fotografia di Vasto, noi questo facciamo di mestiere. La fotografia di Vasto con il signor Bersani, il signor Di Pietro, il signor Vendola è l'annuncio della prossima coalizione, è quella ormai, no? Io spero di no, perché se chi vuole fuori? Mancano Ferrero e Diliberto, effettivamente. Mancano Ferrero e Diliberto. E se si va con una coalizione troppo ristretta, si rischia di fare come nel 94. Chi ci ascolta forse ricorderà che nel 94 i progressisti pensavano di stravincere le elezioni, perché c'era stata la crisi della DC, eccetera, eccetera, e si presentarono con la famosa macchina da guerra guidata da Achille Occhetto e poi facciamo la fine di Occhetto, questo però, però scusi, vinse un certo Berlusconi. Sì, quindi... scusi, però Gentiloni, mi sembra che non si possa, mi sembra, però non mi sembra, non si può sfuggire a questa cosa, mi sembra, cioè ormai Bersani è andato lì, ha fatto sta foto con la mano, a lui in realtà la mano non mi sembra che l'abbia messa, ma comunque la foto insieme ai due che fa, non è possibile ormai sfuggire, ormai il solco è tracciato. Ma Bersani è stato il primo, ieri abbiamo avuto... Ma è stato un errore fare andare lì? Abbiamo avuto una nostra riunione del PD, no? Sì. Con tutti i riti delle riunioni interne dei partiti, in cui però non c'è stato uno che non ha detto che bisogna andare con una coalizione molto larga. Ok, quindi... ma lo dici, tanto non ci sta con Vendola. Io non chiuderei le porte, non accelererei i tempi, non mi metterei a fare giochi a tre... mettendo a punto le virgole dei programmi in tre, escludendo altri. È stato precipitoso Bersani, cioè, ma forse sì, cioè non, è, forse non era il caso, lui si aspettava che quella foto sollevasse anche tante... Beh, come è stato ingenuo, è stato ingenuo allora. Ha sbagliato, mi dica una cosa chiara, ha sbagliato a fare io quella foto. Io non l'avrei fatto. Ha sbagliato, dunque ha sbagliato. C'è poco da fare. Beh, ma è così. Un po' precipitoso, certo. Un po' precipitoso, forse un po' precipitoso. Ma non è che andate in un luogo segreto, della festa sì, appunto, pubblica, non è che andate alla riunione della massoneria, eccetera. Ma scusate, ma se tu devi lanciare un'alleanza a tre, anzitutto se lanci l'alleanza a tre prima di fare una cosa più larga, rischi che appaia come un'esclusione degli altri. Ma se proprio lo vuoi fare, non a casa degli ma altri, fallo a casa tua, no? Sì, sì, infatti questo era uno degli argomenti. Senta, se dovessero entrare in lista anche la Federazione della Sinistra, Ferrera Di Riberto, lei ci starebbe ancora? Troppa grazia. Come troppa grazia? Che vuol dire? Dio ci scampi e liberi, guardi che se ne parla concretamente, gli interessati dicono che c'è già un accordo con Bersani praticamente. Di Riberto c'è scritto il programma di economia, tutto a posto. No, ma Bersani ha smentito più volte, non vogliamo rifare l'Unione. Cioè, è un'ipotesi impossibile? Io penso che Bertinotti abbia detto una cosa giustissima qualche giorno fa. Cioè? E cioè che in questa situazione economica, sì, in cui i margini di redistribuzione eccetera sono molto molto limitati, una forza rivoluzionaria di sinistra che vuole andare al governo in un paese come l'Italia fa un errore. Perché andando al governo dovrebbe contraddire tutto quello che dice, sostiene. Comunque è impensabile che ci sia un'alleanza con la Federazione della Sinistra. Assolutamente. Giornale Radio. Siamo qui, caro Parenzo, in diretta dai giardinetti di Siena. Qui no, da... ma che giardinetti, amico mio? Non era i giardinetti di Siena prima? Tutto sei giardinetti, io sono un pensionato, ma... Ma l'hai detto tu, sono i giardinetti di Siena. Vabbè. Che ciante hai del signor Parenzo, me l'ho capito. Vabbè, pensavo fossi in diretta dai giardinetti di Siena, invece sei tranquillamente a casa, e qui invece siamo in diretta dagli studi di Milano, la Zanzara Radio 24, come sapete il numero ve l'ho dato, i titoli del TG3 come al solito annunciati dal signor Scilipoti che si sbaglia e dice TG3 di Bersani ma lo fa apposta. Va ora in onda il TG3 di Bersani. Lavoravano per meno di 4 euro l'ora e per 14 euro al giorno le operaie morte nel crollo di Berletta, sciagura inaccettabile per Napolitano. Tremonti, Spagna meglio dell'Italia, forse perché vanno a votare, poi precisa nessun riferimento all'Italia, conti ok anche con crescita zero. Intercettazioni, la buongiorno dice no alla proposta di mediazione del PDL, minaccia di dimettersi da relatrice, PD e Di Pietro, opposizione dura. Berlusconi alle prese con i nodi decreto sviluppo e Banca Italia, avanti fino al 2013, presentata al Senato la riforma costituzionale. Fiat fuori da Confindustria, Camusso contro Marchionne, non rispetta le regole come nell'Ottocento, Innocenzo Cipolletta ospite del TG3. Vola in America Amanda dopo la soluzione, Raffaele in Puglia, Perugia lo sconcerto della mamma di Meredith, vittima senza colpevoli. In Sardegna un contadino vince la causa contro un colosso dell'edilizia che costruisce un mega albergo sul suo viottolo, le ruspe abbatteranno lo stabile. sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci son volpi di quale stofanti di là, mille topi tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Con tanti galli che cantano, troppe galline rispondono, e se i piccioni spariscono, tutte le papere piangono. Io vi prometto che se entriamo una trentina di noi, di voi, di ragazzi, di cittadini veramente determinati e informati dentro il Parlamento, sono morti, sono morti. E allora prendiamo il loro cervello e ce lo mangiamo. Un altro grillo voglio. No. Sì, un altro grillo. Mangiatore di cervello. Un altro grillo, poi il collegamento con il professor Luttwak, che è in attesa qui per commentare la sentenza Meredith Kercher. Ah beh, certo. Due legislature con effetto retroattivo andavano a casa tutti i segretari, tutta questa gente che vedete in televisione insopportabile con queste facce da vomito. Non sono tutti uguali, sono diversamente schifosi, uno peggio dell'altro. Ancora facce da vomito in TV, mi sembra, no? Facce da vomito in TV. Noi rompiamo i coglioni a quasi tutti, destra, sinistra, questi partiti che non hanno più senso, non hanno più senso con queste loro facce da vomito che sono in televisione. Invece non c'è, il lupo scenderà qua giù, il coccodrillo sa che presto morderà e che nessuno lo prenderà, ed il giaguaro è già pronto a colpire finché ogni gatto. Siamo qui, la zanzara, 800 24 00 24, ascoltatori, non prima di avervi fatto riascoltare una delle cose del giorno, delle polemiche del giorno, quella di Tremonti che poi è ridimensionato, ha corretto, eccetera, però insomma resta la sostanza, diciamo. Ha detto una cosa vera, ma non so se ha detto una cosa vera, perché non credo che cambia il governo improvvisamente l'economia italiana va meglio, non credo che ci sia solamente un problema di cambio di leadership, che pure beh, esiste, ormai Zapatero è stato scoppettato, no, ma sto dicendo in Italia, via. Ah beh. E allora lei deve chiedere perché negli ultimi giorni lo spread di alcuni paesi è cresciuto enormemente. Varia molto, insomma, il caso della Spagna secondo me dipende anche dall'annuncio di elezioni, che di per sé sono una prospettiva di cambiamento e quindi un'apertura di futuro, no? Intanto il signor Benigni ha dato un colpo decisivo in negativo alla possibile candidatura di Matteo Renzi, perché lo ha incoronato a Palazzo Vecchio dicendo che sarà uno splendido presidente del Consiglio, un magnifico sindaco di Firenze e sarà il prossimo presidente del Consiglio. Questo Benigni a Palazzo Vecchio. Te l'ha ucciso, dici così? Beh, insomma, un po' l'ha ucciso. Insomma, tutti questi elogi da parte di Benigni, sarà il prossimo presidente del Consiglio. Certo, l'ha detto in maniera scherzosa, però. Manuel da Brindisi, buonasera. Pronto? Buonasera. Sì, dica. Senta, io vorrei commentare un attimo l'atteggiamento di Marchionne, che ha deciso di abbandonare l'Italia. E la prima cosa che mi viene in mente è che forse la FIOM aveva ragione più di un anno fa a dire che erano tutte scuse e che l'intenzione della Fiat era proprio quella di abbandonare l'Italia. Cioè, hanno trovato il modo, la scusa per andarsene, questa è la verità. Altro che globalizzazione, cioè la Fiat in questo mercato globalizzato, Marchionne si sciacqua la bocca con questa parola. Ma veramente, se se ne vuole andare, se se ne vuole andare è proprio globalizzata, proprio questo. Sì, Luciani, il problema è che la Fiat parla, cioè Marchionne parla, però poi non concretizza nulla a proposito di globalizzazione, perché che significa? I due paesi simbolo della globalizzazione, che sono la Cina e l'India, vedono un'assenza totale della Fiat, no? Sia come guardi, Manuel, io sono come mercato. Guardi, adesso lasciamo perdere la questione del prodotto, che pure è importante. Tutto. Io sono dalla parte di Marchionne. Ha detto a prima. Prescindere. Sono quasi a prescindere, diciamo, quasi a prescindere. Cioè, se devo scegliere, siccome io sono abituato a scegliere, se devo scegliere, adesso al di là del merito, delle cose, delle questioni che riguardano il prodotto, eccetera, eccetera. Se io devo scegliere come prospettiva di futuro, di modernità, da una parte il signor Marchionne, dall'altra la signora Camusso. Ma che c'entra? Tu che scegli? No, tra Marchione della Valle, io scelgo della Valle, ad esempio. Ma sei matto, tu sei pazzo totale. Ma tutta la vita. Ma tutta sei impazzito vita. Completamente. Gigi, vita, completamente. Ma assolutamente. Gigi dalla provincia di Padova. Poi è chiaro buonasera. Che tra Marchione... buonasera, Cruciani. Ciao. Buonasera, ciao, dica. No, Gigi Marichello. Dottor Cruciani, due cose rapidissime. Guarda. Ma sei Gigi? Sulle dichiarazioni che ha fatto... No, ma io lo conosco sto Gigi, è un amico mio. Ciao Davide, sì, ti conosciamo. E chi è questo? Scusa, vi conoscete? Ma Gigi è il numero uno, Gigi Marichello, ex vice sindaco di Limena. Sei fortissimo. Senti una cosa. Dimmi. Ecco, volevo dire, per esempio, la Anzi, dichiarazione... Mi dica. La dichiarazione che ha fatto oggi il ministro delle finanze, insomma, sì, ha dello spaventoso, insomma. Noi passiamo da una situazione che ha bisogno di anima, di speranza, e lui tranquillamente la pone in una questione ragionieristica. Noi recuperiamo il debito anche a crescita zero. A crescita zero vuol dire che noi tra due anni avremo una disoccupazione giovanile del 33%, avremo una disoccupazione generale al 10%. Noi siamo veramente dei pazzi a aver dato priorità alla finanza che non ha l'anima di un sistema economico. L'anima di un sistema economico vuol dire trovare tutte le strade per poter dare occupazione, speranze. Ma non ho capito a chi si riferisce. Tremonti, che ha detto Tremonti ha detto oggi i mercati, perché ha rassicurato i mercati dopo la dichiarazione che avevano fatto di dire ma la Spagna va meglio perché abbiamo buttato fuori dalle scatole i leader, lo dovremmo fare anche in Italia. Vabbè, adesso non ha detto proprio così, insomma, comunque la sua interpretazione è questa. nonostante la crescita zero, dice, però il bilancio con i risultati economici che noi abbiamo di ritorno, il bilancio si sana anche a crescita zero. Questa è una catastrofe, Cruciani. Stava per dire una cazzata? No, è una catastrofe sia da un punto di vista filosofico che da un punto di vista puramente politico-economico, insomma. Va bene, Gigi, grazie. Michele da Milano, buonasera. Buonasera, Cruciani. Dica. Io volevo intervenire su un argomento che spero vi stia a cuore, che è la sua faziosità, che ormai era... Oddio mio, l'argomento della mia faziosità, no? Michele? Che noia. Mi dica, cosa c'è da dire, Michele? Poco fa dice, io sono un uomo delle scelte, che prende delle decisioni, che prende delle ma io ho detto semplicemente, era un modo per... Ma quali posizioni prende? Lei prende solo posizioni che siano... chiare in una direzione. E quale sarebbe la direzione? La direzione che è... quale sarebbe? No, me la spieghi, perché non la so. La spiego benissimo, non è sicuramente poco abile nel gioco di parole. Questa sua trasmissione che ha occupato uno spazio così importante, che purtroppo io non posso ascoltare troppo, ma ogni volta che l'ascolto mi sembra che sempre sia in unidirezionale. Ieri sera con Spataro è stato spaventoso nel momento in cui... Come spaventoso, scusi? I magistrati, nel modo in cui ha operato con lui nella discussione di un nuovo pacato. Ma spaventoso, gli facevo delle domande, abbia pazienza. Ma che domande? Ma le domande però lei non dà risposte, cioè voleva anche dare delle... Vabbè, ma qual è la sua conclusione? Non ho capito, la mia conclusione. Vada alla conclusione, che sono filo berlusconiano, cos'è questa roba? Che lei è filo berlusconiano, farebbe bene a dirlo. L'ha detto, benissimo. Non è che lei sia filo berlusconiano. Ha detto la stupidaggine della serata. Su, sono le 19:28, la stupidaggine delle 19:28. È capace di insultare, basta. Ma che insultare? Io ho detto che la stupidaggine, mica non è un insulto questo. Quando uno dice una stupidaggine... Allora, io esprimo un'opinione. E infatti lei l'ha espressa. Lei l'ha espressa, non c'è problema. E lei mi dice che dico delle stupidaggini. Siccome è una cosa che mi riguarda, è una solenne stupidaggine. Lei deve semplicemente dire: io ho una certa posizione. Ma quale posizione? Io ne ho tante di posizioni, ne ho tante. In qualche caso coincidono con il centro-sinistra, in alcuni casi con il centro-destra. Lei ha trasformato una trasmissione. Ma in che ho trasformato? Varietà ma che c'entra? Con il suo collega Parenzo. Ma che c'entra questo col fatto del filo berlusconiano almeno? Cosa fa mio nome Ivano? Ma questo signore Michele da Milano che abbracciamo fortissimo, naturalmente. Come no? Ivano? Sono Michele. Non Michele, Ivano. Sì. In ogni caso. Ivano. Io Michele le voglio bene, però. Anch'io io le voglio bene perché sì, le vogliamo bene. Capisco. Le vogliamo bene, non si preoccupi. Perché la critica va benissimo, è giusta. Va bene. Ma io, infatti, sto facendo una critica. È Cruciani che insulta. Ma che insulta? Ma la stupidaggine della serata è lei che quando inizia la trasmissione può dire: io sono. Sì. Di questa posizione. Sa una cosa? Lei è completamente fuori da ogni logica di normalità. Beh, io non sapevo chi fosse lei. Tempo fa, adesso dopo me lo spiega, c'è la borsa prima, dopo mi spiega chi sono io, perché forse è interessante anche per il sottoscritto. Borsa. Siamo qui 19:35 800 24 00 24. Prima di tornare agli ascoltatori, in particolare con il signor Michele da Milano, che aveva qualcosa da rimproverarci, anzi soprattutto rimproverarmi. Ecco. Caro Parenzo, collegamento con gli Stati Uniti, con Washington. Beh, insomma, la questione Meredith Kerr, cioè soprattutto la questione della soluzione, come sapete, di Amanda Knox e di Raffaele Sollecito, insomma, come è stata vissuta da uno degli osservatori più importanti negli Stati Uniti, Edward Luttwak. Buonasera, professore. Allora, noi pensiamo che evasione fiscale è grande problematica per il vostro paese. Ma che c'entra l'evasione fiscale? Stati scusi. Uniti, no, Radio 24, no? Sì, ma che c'entra l'evasione fiscale? Parliamo di economia, di Lehman Brothers, fallimenti. No, parliamo della vicenda. No. Mercato, e questo è importante, il mercato. Italia, no. Non avete mercato, avete sindacato, occupazioni, scioperi, fabbriche. No, veramente fabbriche non è così. Deve chiudere. No, ho capito, però produce, volevo sapere da lei. Soldi. Un giudizio sulla vicenda market, della soluzione. You know what is market? Sì, sì, ma ho capito, la soluzione del signore di Sollecito e Amanda Knox soprattutto. Ah, well. Noi pensa c'è grande problematica in Italia, noi America pensa che il sistema di giustizia è corrotto, rovinato, gradi di giudizio tu anni, processi lunghi. Veramente è il caso di Dominic Strauss-Kahn, presidente del Fondo Monetario Internazionale, preso in aereo, arrestato, sbattuto in galera con manette, barba lunga in galera. Sì, barba lunga. Subito, barba lunga, non può tagliare in galera. Con barba, non come c'è le italiane. Allora? Tutti. Allora tu prendi, lo porti lì, fa processo subito, eccetera. Procuratore sbaglia, procuratore cacciato via, non fa più nessun processo, finito. Finita carriera del procuratore, che ha imbastito processo inutile con tutti i costi per l'amministrazione americana. Italia no, Italia processi lunghi, tutto che non funziona, nessuno chiede scusa, procuratori che poi diventano politici. Problema è Agnoletto e il signor Di Pietro. Ma che c'entra Agnoletto? Scusi, Di Pietro. Agnoletto fa con la sinistra, ha candidato a magistrati, è tutto un problema di sinistra. Vabbè, ho capito. Dunque, ha ragione Alfano quando dice che c'è un problema che riguarda Alfano, la responsabilità. No, idea che è Alfano. Noi in America non parla di Alfano, a Washington DC, Alfano, noi non sa chi è Alfano. Vabbè, nomi di gente che non conosce. Va bene, noi grazie professore. Con America, con grandi mercati internazionali, Alfanowitz. I know. Vabbè, ho capito, grazie professore. Torniamo con Michele da Milano, sempre 800 24 00 24. Michele. Sì, dove eravamo rimasti, Luciano. Che ne so, Michele, insultare. Lei dice che la voglio rimproverare, ma io non la voglio rimproverare. Lei è libero di fare quello che vuole, anche perché lei è un sostenitore di questo liberismo, garantismo, che ormai è la panacea di tutte le... Ma che vuol dire con sostenitore, no? Di garantismo, liberismo? Come parla? Come parlo? Io parlo come so parlare, e lei come si comporta? Lei dovrebbe semplicemente dire quello cui lei... Io le dicevo... Quando l'ho sentita per la prima volta, Radio 24, eravamo rimasti lì. Mi permetta, che non conoscevo il suo... Sì. Non la conoscevo. Non so, allora? È una mia lacuna. Ho detto, guarda, secondo me questo bravo giornalista prima o poi arriverà a fare una trasmissione Mediaset. Ero solo... Va bene, ecco la stronzata delle 19:38. Seconda stronzata, dopo le 19:28, altra stronzata, quella delle 19:38. Continui a insultare e dare la trasmissione. Altra stronzata, 19:38. Ma insomma, non è male. Una ogni 10 minuti non è male, Michele. Non è male. Una ogni 10 minuti è una buona media. E infatti, io per questo dico, siccome sono abituato a dirle anche più spesso, solo che mi pagano per dirle, sa qual è la differenza? ragazza è questa qua, dunque sono anche più furbo di lei. A lei non la pagano, a me sì, grazie. Lei è, oltre a essere un insolente maleducato, benissimo, anche... insolente e maleducato è spettacolare, è bellissimo. A me pagano per dire stupidaggini, pensi un po' che cosa meravigliosa. Lei invece dice due stupidaggini, due stupidaggini e manco le paga, manco la paga. Visto che lei è molto bravo, tenga la schiena dritta, Cruciani. E infatti la tengo dritta, tanto la tengo dritta che mi pagano per dire stupidaggini. Tenga la schiena dritta e... sì. La saluto. Bene, grazie. Le auguro anche a lei che un giorno qualcuno la paghi per dire stupidaggini. Silvio da Torino, buonasera. Silvio? Sì, pronto? Sì, dica. Sì, buonasera dottor Cruciani. Saluto anche a Parenzo, al mitico Parenzo. Buonasera, caro. Buonasera. Guardi, io volevo intervenire a proposito di ieri dell'intervento secondo me sconsiderato del signor Saia. Guardi, io sono rimasto sbalordito da tutte le offese, le minacce perpetuate da Saia nei confronti di Parenzo. E credo che sia una cosa, io non ho mai sentito una persona così disdicevole. Chi? Come Saia? Condivido. Dice... Sì, io, cioè, minacce di morte, che gli spacca la testa. Vabbè, ma Silvio, non c'è manco... Sono già lavori illegali, guardi, sono già lavori miei illegali. Ah, sono contento, no, perché è una cosa io non ho mai sentito. No, ma non posso, non querelo un coglione, è impossibile. Cioè, guarda, davvero, non perdo in taso le aule di giustizia, sereno il signor Saia. Guarda, faccio questo appello alla trasmissione, lo dico pubblicamente: non querelo il signor Saia per le cose che mi ha detto ieri, semplicemente perché non posso intasare i tribunali. I malati di mente poi gli danno l'infermità mentale, capito? Quindi non ha senso. Silvio, non ci sarà una ricaduta in tribunale di questa cosa. Non ci sarà, non si preoccupi, non ci sarà. Va bene, e poi comunque sempre rimanendo diciamo su Saia, volevo anche dire che praticamente secondo me politicamente sta scalando una montagna di sabbia. In quale senso? Che vuol dire la montagna di sabbia, scusi? Nel senso che praticamente lui si è appropriato del simbolo del movimento sociale, poi sicuramente lei mi dirà che sto dicendo una stronzata, una fesseria. No, perché... No, quando praticamente la moglie del fondatore del movimento sociale, la signora... donna Assunta Almirante, pochi giorni fa praticamente in un link ha messo in guardia tutti i simpatizzanti del vecchio movimento sociale a non seguire assolutamente e non appoggiare il signor Saia, essendo a suo avviso della signora una persona di dubbia moralità. Va bene, ho capito. Sì, però insomma, adesso non starei dietro a queste querelle sul simbolo del movimento sociale, la signora Almirante. Insomma, quello che è il signor Saia, basta andare su internet e guardare alcune espressioni che usa, il modo in cui si veste per qualificarlo. Dopodiché ne possiamo parlare fino all'infinito, tutti hanno diritto di parola, per carità. L'abbiamo invitato ieri, questo lo voglio dire, semplicemente perché c'è in ballo questa questione dell'accordo, dell'accordo con Scilipoti, e lui dice che incontrerà pure Berlusconi. Secondo me purtroppo. Non lo incontrerà mai, però insomma. Questo è il punto. Maurizio da Roma, buonasera signor Maurizio. Buonasera. Vada. Allora, io volevo affrontare due questioni soltanto. Una era quella di Della Valle. Sì. Io ho letto sul Sole 24 Ore quello che ha pubblicato a sua spese Della Valle e devo dire che ha avuto molte critiche sia da destra che da sinistra e anche da molti giornalisti, perché magari volevano delle soluzioni alle cose che diceva. In realtà lui ha fatto l'imprenditore e da imprenditore gli sta stretto quello che fa questo governo, né più né meno, ma come sta stretto a lui sta stretto anche ai dipendenti quello che fa questo governo. Poi non abbiamo molte possibilità di esprimerci. Lui, grazie a Dio, per il suo conto è abbastanza ricco da poter pubblicare delle pagine sul giornale. Di poter dire le sue opinioni, noi non possiamo nemmeno esprimerle durante il voto. Che significa che non le puoi esprimere durante il voto? Perché lei, tu, quando fa il voto, vorrebbe esprimere un'opinione, vorrebbe fare un comizio lei ha capito perfettamente. No, ma non ho capito perfettamente perché questa cosa è ridicola. Non possiamo esprimere le opinioni. Che vuol dire non possiamo? Vi spiego perché un'opinione si esprime magari votando una persona che sta sul territorio. Cioè lei che cosa vuole fare? Mi scusi, vuole tornare a che cosa? Alle preferenze oppure ai collegi? No, spieghiamoci perché questa cosa... Io vorrei tornare ai collegi, se fosse possibile. Ai collegi, benissimo. Io vorrei tornare ai collegi. Ai collegi, allora, in Italia l'Italia è un paese curioso. Quando c'erano i collegi, qualcuno diceva no, però non va bene, dobbiamo aggiungere anche il proporzionale, sennò siamo troppo americani, perché bisogna dare diritto di parola ad altri. No, aspetti un attimo, poi qualcuno diceva, però nei collegi che succede? Che alla fine candidano nei collegi sicuri, cioè in alcune regioni, e magari alcune regioni del centro-sud per il centro-destra, alcune regioni del centro per il centro-sinistra, candidano gente magari che non è di quelle zone e vengono paracadutate nel collegio sicuro. Dunque anche i collegi hanno i loro difetti. Insomma, cerchiamo di non essere troppo ipocriti anche su questo. Beh, vabbè, però sempre meglio quello che c'è oggi. Io non lo so se è meglio questo. Senza dubbio. È meglio però non un sistema pasticciato. Importante che non sia un sistema pasticciato. Certo, sono d'accordo con lei. Il più preciso possibile, il più tranquillo e trasparente possibile. Ma questo certamente non lo è. Tant'è che uno dei suoi inventori l'ha chiamato Porcellum. Vabbè, ma guardi, il tema della legge elettorale non mi appassiona. Non vi voglio prendere troppo tempo, appunto. Non vi voglio prendere troppo tempo. E un'altra cosa che io, appunto, non essendo più molto giovane, mi ricordo le interviste che c'erano da parte dei giornalisti ai vari politici. Io mi ricordo dei giornalisti in gamba, dei giornalisti che arrivavano informati. Oggi si fanno delle interviste a uno di destra, uno di sinistra, magari in uno studio, quello di destra dice che il PIL sta a meno 3, quell'altro dice che sta a più 5, e ognuno dice la propria opinione, il giornalista sta in mezzo e passa alla domanda successiva. E invece una volta il giornalista diceva: scusate, ma qui io mi sono ho visto che il PIL è questo, perché lei dice che è questo valore, l'altro dice che è questo. E su questo si discuteva magari. Vabbè, allora... Oggi, no, voglio dire proprio questo, che il suo modo di fare la trasmissione io lo trovo divertente. Ma questo qua non è un talk show come gli altri, non è che sono tutti uguali, non c'è una regola, non per ci fortuna, sono regole. Questo è il problema, non ci sono più regole, ognuno fa quello che gli pare. Meno male che ognuno può organizzare una trasmissione come vuole, abbia pazienza. Addirittura la Marina Berlusconi ha chiesto al ministro di Grazia e Giustizia, nominato dal padre, che cosa ha chiesto? Se andava bene la sentenza che avevano fatto. Beh, non mi pare proprio non mi pare proprio che abbia chiesto questo al ministro della giustizia, non è esattamente così. Voglio dire, ragazzi, c'è un problema di conflitto di interesse non solo per i media, perché vengono. Ma lei che cosa fa? Parla ha fatto un esposto, lasciate ha fatto un esposto, non è che ha fatto un esposto, non è che ha chiesto a Alfano intervieni su questo. Lei proprio ha sbagliato un po' prospettiva. Non l'ha chiesto Alfano. 30 secondi, 30, grazie, 30 secondi, torniamo subito. Siamo qui, 19:47, caro Parenzo. Sì. Sei carico o no? Molto, a mille. Sei carico? Fra poco, dopo le 20, collegamento, anche solito collegamento, stiamo cercando di mettere a punto la linea. Questa sera c'è un problema di linea, con la Reggia Reale di Monza, c'è un problema di linea. Ma oggi secondo me non è a Monza, sai. Non è a Monza, dici? Oggi è martedì, sarà tornata, ogni tanto andrà anche a Roma, no? Sto ministro, sembra Monza, da solo in quella stanza con sto calderoli che entra, sbatte la porta, situazioni pazzesche si creano lì. L'onorevole Fabio Garagnani, PDL, bolognese, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Come sta? Mancava solo lei. Perché dici mancava solo lei? No, lo faccio per 10, gli ascoltatori capiranno. Mancava solo lei, benvenuto. Ma perché ha fatto Ma che? Che è successo? Parenzo, che fai? Ma perché ti stai riferendo al fatto che il signor Garagnani ha fatto recentemente... Spiega ai tuoi ascoltatori, ai tuoi 2 milioni di ascoltatori, spiegalo. No, voglio dire, allora, tu ti stai riferendo, fai subito ironia sul signor Garagnani. No, io gli voglio bene. Vorrei andare in vacanza con lui a Natale. Vabbè, perché c'entra adesso addirittura andare in vacanza con... Mi diverto da morire. Mi divertirei da morire con lui. Perché ha fatto... Vabbè, tu ti riferisci al fatto che ha fatto la proposta di sostituire il 25 aprile, il 25 aprile come festività, con il 18 di aprile, giusto? Perché ridi? Scusa, è una cosa seria, mica una cosa... Vabbè, fai parlare lui dopo. No, ma perché ridi? Onorevole Garagnani, perché ride Parenzo? Guardi, io che ritengo che sia una cosa molto seria. Comunque, se vogliamo discutere seriamente, si discute seriamente. No, ma perché? No, ma ride, io non capisco perché ride. Infatti, anche secondo me è una cosa seria, ma non capisco perché ride. Parenzo. Ma perché si sposta dalle festività come fossero delle caramelle? Come dici, sono in Francia, dice il 14 luglio 1789, la rivoluzione francese. Dice si alza Sarkozy e dice no, quando ho parlato con Carla Bruni, abbiamo deciso di spostare il 14 luglio e di farlo invece il 17 di dicembre. Cazzo, ma come vabbè, non è proprio la stessa cosa. Il 18 aprile. Allora, mi spieghi un attimo, innanzitutto, nella sua testa, Garagnani, il 25 aprile che cos'è? Ecco, no, intanto premetto che l'ordine del giorno non è una proposta estemporanea. era l'ordine del giorno collegato alla manovra finanziaria. Sì, sì, vai, però comunque lei lo vuole fare lo stesso, a prescindere dalla manovra finanziaria. Sì. Ecco, io non ho mai avuto problemi, non credo che ci sia da discutere, non ho mai avuto difficoltà ad ammettere che la lotta alla resistenza, la lotta della resistenza contro il nazifascismo ebbe un significato, però ebbe un significato di lotta contro l'invasore e per difendere e ripristinare un minimo di libertà. Un minimo. Ho sempre detto che lo spirito con cui i partigiani comunisti combatterono il nazifascismo era profondamente diverso dallo spirito con cui i partigiani democristiani, liberali, riformisti combatterono, perché gli uni volevano instaurare una dittatura come sull'esempio di quella vigente nell'URSS e dopo nei paesi dell'est europeo. Dunque il 25 aprile è una festa principalmente comunista? No, se lei vuole scherzare, ho detto aprile non è una data unificante, a mio modo di vedere. La data realmente unificante per il popolo italiano è stato il 18 aprile 1948, che è stata una scelta di libertà che ha consentito alla stessa sinistra di evolvere da un modello legato al comunismo internazionale ad una socialdemocrazia. Cioè, però mi scusi, Gragnani, com'è possibile che venga riconosciuto da tutti gli storici il valore storico di questa vittoria del 18 aprile? Però è una vittoria, è una vittoria di un partito su un altro, diciamo, di una è lì l'errore. È la vittoria della democrazia sull'altra, perché se avesse vinto il fronte popolare, l'Italia si sarebbe trovata in una situazione di guerra civile, si sarebbe trovata nella stessa situazione dei paesi dell'est europeo, con problemi economici significativi, con divisioni profonde, con vere e proprie situazioni di emergenza sociale. Però scusi, tutto a noi perché per fortuna non è accaduto, grazie alla lungimiranza di statisti come De Gasperi, Einaudi, Saragat, e credo che quella data debba essere ricordata. Però mi scusi. Ma cosa c'entra questo col 25 aprile? No, però lasciamo perdere il 25 aprile, ma le pare una questione importante da affrontare? Cioè, 25 aprile sostituiamo il 25 col 18 aprile? Ma scusi, lei mi ha posto la domanda, io l'ho detto in che contesto è scaturita. Sì, ho capito, in quel contesto lì, però lei non è la prima volta che lo dice. Festività civili. No. Io ho preferito, allora, nel momento che si discuteva 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, io, facendo riferimento a mie precedenti proposte di legge in questo senso, ho proposto il 18 aprile. Il 18 aprile. 1948, rendendomi pienamente conto, non a caso ho fatto proposte di legge o atti parlamentari di altro tipo, che la situazione del nostro paese oggi è economicamente delicata, dobbiamo fare i conti con altre emergenze. Fosse per lei lo abolirebbe il 25 aprile? Si discuteva di questo. In questo, sì, no, certo, lei, fosse per lei, adesso mi dica la verità, lo abolirebbe il 25 aprile o no? Sì. Come non festa. Avrei problemi ad abolire, perché le ritengo che la vera data unificante sia il 18 aprile 48. Che fosse per lei. Ma l'ho scritto, l'ho detto da varie Ho capito, glielo faccio ripetere, abbia pazienza. Non è che glielo faccio ripetere perché magari la gente che ascolta non lo sa. Il 18 aprile non lo sa, io ho ricevuto dai miei elettori molti consensi, soprattutto perché in Emilia Romagna, certo, perché sono suoi elettori. I libri di Panza ne fanno fede, dal 45 al 48 in nome della resistenza furono effettuati tragici misfatti, furono compiuti delitti, ci furono centinaia e centinaia di scomparsi. Scusi, Napolitano però dice che i partigiani comunisti sono solo un movimento. Ma non è il problema di un movimento o meno, ebbero un ruolo significativo. Io dico che lo spirito della resistenza è stato uno spirito il 25 aprile che è servito al Partito Comunista di allora per legittimarsi nell'arco democratico. Ma che dice? Ma lei sa chi ha la storiografia? Scusi, Napolitano è contrario a questa cosa del 25 aprile. Mi sembra di capire che Napolitano è contrario a questa cosa del 25 aprile. Credo. Dello spostamento del 25 aprile, il presidente della Repubblica. Lui l'ha detto, e io posso non essere d'accordo con Napolitano. Sì, certo, figuriamoci. Ieri c'è stato Castelli che è venuto qui a Radio 24 a dire una cosa tremenda su Napolitano. Qui non è che siamo. Non abbiamo preclusione. Io non condivido, io ritengo che una festività nazionale deve essere una data unificante. A mio modo di vedere, la data unificante è stato per il popolo italiano il 18 aprile 1948, perché bisogna guardarla in prospettiva storica. È l'unico che scusi, ma fosse per Napolitano, fosse per Napolitano, per la storia di Napolitano, noi in che condizioni saremmo oggi? Cioè, non ho capito la domanda. Cioè, voglio dire, con la mentalità, se noi avessimo seguito, Napolitano ha una cultura che è quella, no? Che cultura è quella prima? Di matrice comunista. Di matrice comunista. Matrice, è stato un partigiano, anche un combattente per la libertà del PC, certo. O no? Della Brigata Garibaldi. Qua partiamo da due, a parte che ci sarebbe da discutere. Dica chiaramente. No, ma onorevole, dica chiaramente che per cui onorevole, che, scusi, ma dica che Napolitano combatteva dalla parte sbagliata. Ruolo determinante nella liberazione dall'occupazione tedesca fu svolto dagli anglo-americani, ma abbia il coraggio di dire dei partigiani eccetera, ma fu svolto. Però se qui dobbiamo partire da un concetto, a mio modo di vedere, no, scusi onorevole, abbia il coraggio di dire, è una festa che unifica senza dignità. Poi ma abbia il coraggio di dire che in Napolitano non è il 25 aprile la data unificante. Ho capito, perché si, ma invece raccontarsi sta roba non ti ascolta, porta in sé problemi non risolti dell'immediato dopoguerra e della guerra. Benissimo, però Garagnani, diciamo una cosa su Napolitano, cioè lei ha detto una cosa prima, no? Combatteva, cosa ha detto prima? No, ho detto, io non so se lui è stato un combattente, onore al merito, chapeau per contro il nazifascismo, ma sicuramente sulla base di ideali che erano antitetici a quelli miei e a quelli della democrazia. Cioè avessero essere vinto quelli... allora sì. Significava essere fautore di un modello sociale e politico che era quello che comprimeva la libertà a tutti gli effetti. Stalin, allora c'era Stalin, il rapporto fra Stalin e il Partito ma la mentalità di Napolitano è cambiata oggi? Eh? La mentalità di Napolitano è cambiata oggi? Ma presumo di sì. Il tempo passa per tutti. Passa per tutti. Direi la caduta del muro di Berlino mi pare che abbia indotto molti comunisti ad una riflessione autocritica sulle proprie passate convinzioni. Però abbiamo la pubblicità che allora c'era fra i comunisti e l'Unione Sovietica è evidente a tutti. Le stragi del dopoguerra in Emilia Romagna fino al 48 sono un dato di fatto. Allora abbiamo la pubblicità, torniamo subito. Garagnani, si fermi un attimo, pubblicità. Siamo qui, caro Parenzo. Come giudichi? Che voto dai da 1 a 10 a questa proposta del signor Garagnani, onorevole Fabio? Ma meno 20, c'è una follia. Intanto, dico in 30 secondi, mi stanno sulle balle, detto proprio in modo tranchant e poco elegante. Noi siamo poco eleganti. Sì. Ecco, i politici che vogliono riscrivere la storia, le date, la storia la fanno gli storici. Panza ha scritto dei libri meravigliosi, non c'era bisogno di conoscere il parere dell'onorevole per sapere quello che è avvenuto nel famoso triangolo rosso dell'Emilia Romagna. Ma non è questo il tema. Il tema è che il 25 aprile è una festa nazionale riconosciuta da tutti. Chi ha firmato la Costituzione, caro onorevole, sulla quale lei ha giurato in quanto deputato della Repubblica? Non è che ha giurato sulla Costituzione. Ha giurato sulla Costituzione anche lui. Non ha giurato sulla Costituzione. Non ha giurato sulla Costituzione. Dovrebbe giurare in quanto deputato, tenere fede al... Non è un ministro, chiaro, ma dovrebbe tenere fede oppure, al... Oppure nella Costituzione c'è troppo comunismo, è signor... firmato da Terracini. Lei sa chi è Umberto Terracini, caro onorevole? Sa chi è Terracini? Chi è Terracini? Quello che ha firmato la Costituzione, che è un comunista, Terracini, che ha firmato la Costituzione. Ma questo non vuol dire che condividesse fino in fondo i presupposti contenuti nella Costituzione. Non prendiamoci in giro. Se voi volete prendere il doppio gioco, voi non avete rispetto di opinioni diverse. No, voi, ma stiamo parlando civilmente, stiamo combattendo, qui siamo dei combattenti. Mi pare che il dialogo trascenda e... No, come trascenda? Ma questo è il wrestling radiofonico, è un wrestling. Non questo. Mi pare, io non mi pare che... Ma questa è una battaglia, qui siamo in un'arena. È un stato del wrestling. In Italia, che sulla resistenza ha una sua opinione. Purtroppo, la cultura di sinistra che ha dominato nel nostro paese ha michizzato la resistenza, sembra gli obiettivi di fondo che era quello di legittimare il Partito Comunista senza costringerlo a fare i conti con la sua storia e con la sua ambiguità. Oggi chi è il massimo esponente di questa cultura? Ma è un movimento di opinione che si è fatto luogo filosoficamente, ad esempio abbiamo avuto Augusto Del Noce che su questo ha scritto dei libri, Il suicidio della rivoluzione, Il problema dell'ateismo, dove proprio ha analizzato il crollo dei regimi dell'est europeo prima che i medesimi crollassero, ma c'è un tema di una letteratura storica che è chiara al riguardo. Purtroppo, ripeto, predominano nelle scuole però testi che hanno una chiara impronta. Lei voleva sospendere da 1 a 3 mesi chi fa propaganda politico ideologica in classe, mi sembra, no? O sbaglio? Ho detto sì, No, non è proprio così. La proposta di legge è gli insegnanti che fanno propaganda politica, se durante l'orario scolastico. Come si fa a decidere? Perché da poi, poi succede? No, il problema allora è il tempo a disposizione è limitatissimo. Il problema intanto stabilisce che il docente è un educatore, non è un progettatore politico, se esso di destra o di sinistra. Sì, vabbè, questo speriamo che non sia, tutti noi speriamo che non sia poi così. Poi può avere le sue, giustamente deve avere le sue idee, ma è chiaro che queste sue idee non devono prevalere sul suo compito di educatore. Beh, ci voleva lei per dire questa roba. È impossibile essere obiettivi. Ho capito, però sospendere... Ma, matti, ma ci voleva una sua proposta di legge per dire questa roba qui. Ma qui siamo alla follia, onorevole, ma con rispetto e amore... No, però scusi, onorevole Garagnani, come si fa a sospendere? Cioè, chi decide questa cosa? Cioè, chi decide cos'è propaganda che non è, o non è propaganda? Perché da, poi esistono dei casi, esistono sicuramente. No, beh, guardi, c'è tutto. Io ho testimonianze raccolte nelle scuole con l'Emiliano Romagna o di altre regioni, ma c'è un limite. Quando si insulta quotidianamente il Presidente del Consiglio durante l'orario di lezione, ma quando si demonizza senza controprova, approfittando della giovane età degli studenti, un fatto storico... ad esempio il dopoguerra, la guerra fredda, gli Stati Uniti, quello è più complicato, ma lei dice chi insulta chi, cioè, quotidianamente ci sono quotidianamente ci sono insegnanti che criminalizzano Berlusconi ogni giorno, lei ha testimonianze di questo ogni giorno? Sì, che sono stati distribuiti i volantini in molte scuole, ma è intervenuta attaccano il governo, oggi c'è un attacco sistematico al governo nelle scuole, soprattutto al ministro della pubblica istruzione fino a qualche mese fa nelle scuole di ogni ordine grado. Questo l'attacco al ministro c'è sempre a prescindere dal colore politico, ma come lei sa. L'attacco al ministro deve essere fatto non durante l'orario scolastico, fuori giustamente ognuno può criticare chi vuole, può attaccare chi vuole. Dentro la scuola non si può criticare la Gelmini, dice lei, dentro le scuole, dentro l'orario scolastico il docente deve trasmettere alcune nozioni fondamentali. Non può criticare la Gelmini, non si possono distribuire volantini, non si possono attaccare nella scuola, ma ci mancherebbe, la scuola non deve diventare una palestra politica. Allora quegli studenti di destra distribuiscono volantini, quelli di sinistra pure, gli insegnanti. Ma è sempre avvenuto fuori dalla scuola. Ma che cosa dice? No, fuori dalla scuola. Io ritengo che la scuola, favorendo le assemblee, ci sono sempre state. Ma dove tra tutti gli studenti, fra tutte le idee, però deve prescindere da quella che è una valutazione politica contingente. Cioè il docente deve ricordarsi che deve presentare i fatti nel modo più possibile obiettivo. Senta, non è un funzionario di partito il docente, cosa che spesso accade. Questo è il problema. Cioè spesso i docenti sembrano funzionali di partito. Ma io non generalizzo. Quanti docenti? Vi faccio una percentuale. Quanti sono? Ho il conforto di aver avuto molte testimonianze. Quanti sono, per esempio? Che ne so, uno però deve... Ma non si può banalizzare il problema. Quanti come banalizzare? Sono? Se non c'è un dato significativo... Un problema di fondo, accanto a docenti validissimi che svolgono la loro missione, e parlo di missione, in modo encomiabile, proprio prescindendo anche da ci sono quelli ideologici, politiche vere e proprie, ce ne sono altri che sono veri e propri agitatori politici. Benissimo. Agitatori. Così. Vabbè. Allora... sono libero di pensare, di verificare questo? Liberissimo, certo. Liberissimo. Anche ultimamente in provincia di Bologna sono stati distribuiti in una scuola primaria volantini durante l'orario scolastico che attaccavano molto duramente il ministro. Vabbè, è un fatto gravissimo, camuffando la realtà quotidiana. Allora, 800 24 00 24, ancora qualche minuto con l'onorevole Fabio Garagnani, che lotta come un leone, bolognese, PDL. Le voglio chiedere, mi dica la verità, onorevole Garagnani. No, io non lotto come un leone, semplicemente difendo. Vabbè, ma è un modo di dire nostro. Faccia un po' di è un modo di dire, dica come lotta, è in modo positivo, è lotta, va bene. È una cosa positiva, non è una cosa negativa. Ho detto, lei è una meba, invece non è una meba. Un po' una banalizzazione. Ma no, vabbè, ma noi siamo... Allora diciamo che è una meba. Postemi dai miei elettori. Sì, d'accordo, ma noi siamo un po' dei cialtroni, per cui bisogna un po' adattarsi alla nostra cialtroneria, nel senso che noi spesso banalizziamo o generalizziamo e soprattutto utilizziamo delle espressioni che magari non sono consone alle solite interviste in cui uno mette il microfono e fa un'intervista classica, canonica. Allora, senta, onorevole Garagnani, mi dica la verità. Proprio infatti questo... bisognava dirlo prima. Ma noi lo diciamo, io ho il coraggio della verità, quello che penso lo dico. Ma nessuno lo... Il coraggio della verità, onorevole, stiamo parlando di cosa... Senta, onorevole Garagnani, mi dica una cosa, ma Berlusconi ormai è finito, no? No, non credo. Finito, cioè nel senso che sarebbe meglio se si dimettesse... cioè se si dimettesse, se annunciasse che non si ricandida, almeno questo. Io credo che abbia ancora un ruolo da svolgere. Poi, che tipo di ruolo? Alcune iniziative in materia economica che credo porteranno frutti. Poi mi pare che fino a che il suo governo non è sfiduciato dal Parlamento. Ma questo non c'è dubbio. Questo certo. Ma non ha ragione Tremonti. Cioè non ha ragione Tremonti. Soprattutto di fronte alla mancanza di un'alternativa credibile e praticabile. Scusi, onorevole Garagnani, ma Tremonti oggi ha detto in Spagna, poi ha ridimensionato, che in Spagna la situazione va meglio da un punto di vista economico perché c'è stato un annuncio di elezioni, cioè l'indicazione di un cambiamento. Io credo che invece la situazione può andare meglio se vengono come saranno delineate misure concrete per il rilancio della nostra economia. Vedremo tra qualche giorno, sì. Certo. E la fiducia dell'opinione pubblica e dei mercati crescerà e soprattutto se la maggioranza si dimostri compatta e l'opposizione abbia quel senso dello Stato che in questo momento è indispensabile per affrontare le emergenze. Sì, signor Garagnani, mi scusi, ma lei che è cattolico, insomma, no, immagino che queste storie di Berlusconi che riguardano i suoi comportamenti privati sia un po' toccato anche lei, no? O no? Io credo che intanto bisognerebbe vedere fino a che punto rispondono al vero. Vabbè, ma insomma, è stato detto questo non sempre ciò che è presentato dalla stampa risponde alla realtà. Sì, ma questo Berlusconi un po' libertino, la scandalizza o no? Il problema intanto è verificare, come ripeto, fino a che punto quei fatti riportati rispondono al vero. Io mi baso sulle sue azioni quotidiane che ha svolto, quello sull'operato del suo governo. D'accordo, però c'è anche un altro aspetto. Materia, soprattutto in materie che riguardano i diritti delle persone, la tutela della famiglia, mi pare che sia stata un'azione particolarmente efficace. Dunque a lei non interessa il Berlusconi, quello che fa di notte Berlusconi? No, non è detto che non interessa, mi riservo di verificare attentamente. È stato detto a dismisura, questo interesse smisurato della magistratura a Berlusconi e con le intercettazioni e il silenzio, le pochissime intercettazioni poste in essere nei confronti del caso Penati sono lì sotto gli occhi di tutti. Una certa politicizzazione di una parte della magistratura credo che sia pure sotto gli occhi di tutti. Detto questo, è chiaro che chi ha compiti incarichi pubblici è tenuto ad avere un atteggiamento di sobrietà. Di sobrietà, cosa che Berlusconi evidentemente non ha avuto. Ma non è vero. Come non è vero? Allora perché lo dice lei, scusi? Una dichiarazione più democristiana. È un discorso in generale. Ah, in generale, ho capito. Consiglio fa in tutto sempre in generale. Tutto in generale. No, ma è tutto sempre in generale. No, ma riguarda ognuno di noi, dal Presidente del Consiglio a quello della Repubblica. Ma io non faccio mica il Presidente. Riguarda ognuno di noi questo. Posso dire, è la classica dichiarazione del politico. Se lei cosa pensa? No, io penso su un quadro complessivo globale, i comportamenti privati devono essere giudicati come tali. Ma le sembra un quadro complessivo globale? Il comportamento privato riguarda ognuno di noi, da chi ha maggiori responsabilità a chi ha minori responsabilità. Va bene, che però che? Però credo che occorra anche porre una estrema attenzione all'abuso che di queste inquiste. E va bene, intercettazioni, eccetera. Cioè, però mi scusi, Garagnani, mi scusi. Questa è una dichiarazione di Gigi Minzolini, Una risposta flash. L'Italia è pronta per un presidente del Consiglio omosessuale? Bello. Questo è buono. Non lo so, sinceramente. Come? Non ho un'idea. Ecco, io credo che l'importante che sia una persona onesta che crede in certi valori. Certo, sa che c'è anche un candidato possibile per la leadership del centrosinistra che si chiama Vendola. Ma Vendola potrebbe essere, cioè di Vendola ovviamente io non condivido nulla dal punto di vista politico, perché è una politica di sinistra. Che soprattutto in materia economica. Va bene, d'accordo, ma io ho detto siamo pronti per avere un presidente del Consiglio omosessuale? Non lo so, non credo ancora. Io comunque ripeto. Perché lei dice non credo? No, perché lei dice non sessuale. Ho capito, perché lei dice non credo ancora? La preparazione politica e soprattutto gli obiettivi politici. D'accordo, perché lei dice non credo? Oddio, d'accordo, ma perché lei dice non credo ancora? Non ne ho un'idea al momento attuale. In questo momento, beh, lei mi ha detto non però, credo ancora. Però nel giudizio degli elettori. Ma lo sappiamo, me l'ha detto. Però lei mi ha detto non credo ancora che siamo pronti a un presidente del Consiglio omosessuale. No, vorrei capire perché. Io le rispondo che nel giudizio degli elettori prevarrà rispetto all'orientamento sessuale invece quello che è l'orientamento politico del candidato presidente. Mi arrendo, grazie. Buona serata, signor Garagnani. Pubblicità, sì, chiarissimo. Pubblicità. Ai, ai, ai. siamo qui 20 e 13 ecco. 800 24 00 24, che lotta per evitare le dichiarazioni ridicole. C'è una lotta continua qui alla Zanzara, bisognerebbe fare una sorta di non so, sai quegli gli aggeggi che a un certo punto suonano, che si mettono a suonare, sì, eccetera, e bloccano le dichiarazioni ovvie, le banalità, le frasi scontate. Perché noi riteniamo che in un quadro complessivo, ma qual è il quadro complessivo? Di che parlate? Ma che dite? Va bene, sono le 20:14 in questo momento, abbiamo una serie di ascoltatori collegati. No, 20:13 veramente, io faccio 20:14. Ah no, allora hai ragione sempre tu. No, l'orario ufficiale qui di Radio 24 è questo. Io voglio avere solo quello. La signora Giovanna ci chiama da Genova, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Allora, io tanto viva la Zanzara e saluti anche. Sempre viva la Zanzara. Io ho avuto una fidanzata che era Giovanna. Vabbè, non credo che sia la signora Giovanna da Genova. No, non credo neanche io. Allora, io volevo dire questo, ho telefonato perché posso dire un'altra cosa, signor Giovanna? Adesso, siccome stavo leggendo qua di fronte a un sondaggio di Sky, di quelli del giorno, no? Processo sì. Meredith, Amanda e Raffaele assolti in appello, sentenza giusta, no 63%, sì 37%. A parte che oggi ogni persona in Italia si è trasformata in un giurista sopraffino. Insomma, a parte questo, io ho trovato vergognoso il fatto che ci sono state alcune persone, un numero limitato rispetto a quello che magari uno poteva pensare guardando la televisione ieri, le dirette che ci sono state, anzi una sola diretta in particolare, quella di Rete 4, bella, di quarto grado, quel gruppo di persone che si è riunito di fronte al tribunale di Perugia dicendo vergogna, vergogna, vergogna, è una cosa assolutamente ridicola, vergognosa, ed è la rappresentazione plastica della sete di giustizialismo che c'è in Italia. Cioè quelle persone là sono venute, sì, come no, sono arrivate lì, come vanno sotto il Parlamento a gridare vergogna, vergogna ai politici, hanno detto la stessa cosa per esprimere indignazione nei confronti dell'assoluzione di due persone. Cioè le persone vogliono il sangue, la condanna, le persone in galera a prescindere dalle risultanze processuali. È una cosa pazzesca. Io mi domando una cosa, ma non esiste il terzo grado nelle sentenze? Sì, certo che esiste il terzo grado. E allora questo è il secondo grado, giusto? Sì, ma questo che c'entra? Quindi, no, c'entra, che voglio dire, è mica definitiva questa. Sì, vabbè, diciamo che è molto difficile. È molto difficile che la Cassazione possa cambiare le carte in tavola. Sì, in Italia tutto è possibile, insomma, come sappiamo tutto è possibile. Però c'è da dire che comunque non possono i processi andare così alle lunghe. Questo Beh, in questo caso non è proprio, non è stato un processo lunghissimo, diciamo l'omicidio, la morte della ragazza è avvenuta credo nel novembre del 2007, se non sbaglio. 2007, no? Qui siamo già diciamo dopo meno di quattro anni abbiamo già fatto due gradi, per la media italiana non mi sembra sia una follia. No. Luciano, io però poi uno può discutere sulla carcerazione, ma credo che per alcuni delitti la carcerazione delle persone per forza sia un delitto efferato come questo qui è previsto dal codice. Sì, no, ma certo. Allora, signora Giovanna, perché cosa ha chiamato lei? Mi scusi. Io ho chiamato perché ero scandalizzatissima, perché si parla della comunione a Berlusconi. Ci indicano che anche Sky ha fatto la diretta da Perugia, perché in realtà non ce lo dimentichiamo. No, stavo dicendo che qualcuno ci dice anche Sky ha fatto la diretta da Perugia, è vero. Vabbè, sì, Giovanni. Ma mi sembra fuori luogo tutta questa passione per questi processi. Ma non è fuori luogo, se c'è una sentenza di secondo grado e si fa la diretta, non mi sembra uno scandalo. Mi sembra normale, giusto. Allora, io ho telefonato per dire questo. Cioè, con tutto quello che sta succedendo, per esempio io chiamo da Genova, e due giorni che Genova ha il centro bloccato perché ci sono gli operai dei cantieri, che rischiano di perdere il lavoro, rischiano di andare in cassa integrazione, e quindi sono scesi in piazza, no? Allora ci sono dei problemi molto seri, cioè per la sopravvivenza economica delle persone. E noi andiamo a vedere se Berlusconi è in grado di avere la comunione o no, ma fatti suoi. Ma questo lo dice il professor Zagrebeschi, cosa vuole che le dica? Durante una trasmissione sulla Sette, cioè, durante l'Infedele. Come dice Parenzo, ma non è un problema, infatti. Parenzo dice il vero, cioè la comunione secondo me a un divorziato non dovrebbero darla. Però ma fatti suoi, se lui ha bisogno faccia come nel 1600, che la gente compra i preti, gli regala un po' di soldi e gli daranno la comunione, se forse ci tiene così tanto. Va bene, grazie, traffico. Vabbè, arrivederci. Eccoci qui, 20 e 20, 800 24 00 24. Caro Parenzo, qui ci sono queste dichiarazioni di ieri di Roberto Castelli, viceministro Castelli, qui alla Zanzara, che stanno facendo discutere, caro Parenzo. Sono finite sulle homepage dei più importanti siti di informazione, e questo lo diciamo per tutti coloro che dicono che non facciamo informazione. Chiusa parentesi della polemica. Bravo, hai fatto bene a puntualizzarlo. Chiusa! Bruno da Catanzaro, buonasera. Chi è Bruno? Buonasera, Cruciani. Dica. Senta, io le premetto che sono un suo fedele ascoltatore da sempre. Sì. Volevo farle due semplici domande. Prima domanda. Sì. Parenzo l'ha assunto lei come collaboratore o gliel'hanno raccomandato? Raccomandato, di raccomandato. No, ti prima prego, domanda. Che devo seconda dire? Seconda domanda. Davide, che devo sono dire? Sono raccomandato da Saia. Da Saia. Sono posso fare la seconda domanda? Dica, dica. Se negli anni 50 avessimo seguito tutti gli italiani l'ideologia di Napoletano, sì, secondo lei Parenzo avrebbe fatto questo il lavavetro o il badante? Lei è una persona molto simpatica. Beh, questo la insulterò, no, per ultimo. Però scusi, no, però scusi, che Bruno, no, è simpatica, ieri sera abbiamo avuto un attimo solo. Scusi Bruno, ieri sera abbiamo avuto. Lei ha una voce che mi ricorda qualcuno, non so chi. Adesso mi deve venire in mente. Non riesco a. Questo signore è mandato da Cicchitto, ne sono sicuro. Ma che c'entra Cicchitto? Il tuo amico Cicchitto. Scusa, non ma è vero. Cruciato, un'altra domanda e poi finisco. No, Femi, sì, dove vuole andare? I pagliacci e i comici stanno a sinistra, è vero o no? Pirillo, no, lei mi ricorda Pirillo, il nostro amico Pirillo, sì, ecco, no, chi mi ricorda, sì, io sono di Catanzaro, quello dell'Anduia, mi ricorda quello dell'Anduia, no, il mitico Pirillo, europarlamentare, come no, lei mi ricorda, no. Ma come no, io gli dico di sì se me lo ricorda, che devo fare, mi vuole impedire che... Gli dica al suo collaboratore Parenzo, sì, che Bruno nel 1963 a 18 anni era segretario della sezione socialista di Guardavalle. Questo, sì, quando si faceva politica seria. Guarda, ecco, Pirillo, non parlavamo noi di Berlusconi o di altri. Non noi c'era, discutevamo, certo. No, discutevamo di Matteotti, di Gramsci, discutevamo di tante cose. Ma che vuol dire, scusi Bruno? Questo è importante? Vuol dire mi rifaccio. Ora vado a letto tranquillo, adesso che ho detto questa roba. Vorrei che se mi dà una risposta sulle due domande che le ho fatto. Cioè, la domanda principale qual è, che non me la ricordo più? La principale è quella di Napoletano. Se noi avessimo seguito l'ideologia di Napoletano, sì, quanti lavavetri e quanti badanti avremmo in Italia, secondo tra lei? Cui Parenzo, dice lei, no? Tra il primo. Il primo, quanti lavavetri e quanti. No, no, non ho capito il collegamento tra Napolitano, i badanti e i lavavetri, francamente. Ma quando uno lei non l'ha capito, forse non lo vuole capire. Cioè, a parte che Napolitano. A parte che Napolitano. No, guardi, che il problema è un altro. Il problema. Bruno? Bruno, con affetto, il problema è l'uso, ma anche l'abuso di alcol. Questo è il tema. Ha capito? Uso e abuso. Sono astemio, quindi vede. Non sembrerebbe, amico mio. Comunque ma la voglio bene lo stesso. Dico io che tutti i pagliacci e i comici stanno a sinistra. Allora ho ragione, scusi. No. Lo allunghi con l'acqua. Lo allunghi con l'acqua la prossima volta. Vuole allunghi il vino il con l'acqua. Cognome, le do il mio cellulare eventualmente. Ma io le voglio bene davvero. Ma mi faccio il piacere. Mi faccio il piacere. Mi faccio io non voglio il consenso. Lei ha rovinato la trasmissione di Cruciani. Però scusi Bruno, qui sì? c'è una questione. Ieri c'è stato il signor Saia che ne ha detto di tutti i colori su Parenzo. Non l'ho sentito. Vabbè, signor Saia, lei oggi le ha dato del lavavetri, che per carità non è affatto un insulto, no, del lavavetri e anche del badante, cioè, potrebbe essere un badante per anziani, no? Ma ho capito, ma badante... Vengo a cambiarle il catetere volentieri, guardi. A me no, guardi, io... Se vuole vengo a cambiarle il catetere. Molto difficile. Se vuole le do il numero di telefono e il mio indirizzo. Benigni, no? Benigni, il premier ha le orge contate, orge contate. Bellissimo, bellissimo. Non le piace Benigni, signor Bruno? Alias... No. Guardi, che purtroppo è stata un'altra grande delusione. Perché? Perché sembrava che avremmo cambiato l'Italia, ma non. Però... Sì. Se Berlusconi è là. Ma quale delusione è stata? Benigni, scusi, non ho capito. No, Berlusconi è stata una grossa delusione. E io sono di destra. lo dico molto sincero. Ah, Berlusconi l'ha delusa alla fine, sì. Sì, enormemente. Beh. Ascolto un attimo, ma sa perché è là Berlusconi? Perché non là? Per merito suo. Per merito di chi? Ma per i demeriti della sinistra. Perché il popolo italiano per due volte ha mandato la sinistra al potere. Questo è vero. Cosa hanno combinato? Niente. Hanno bisticciato come le comari. Tutto vero. E hanno riconsegnato l'Italia a Berlusconi. Tutto vero. Vedi che se uno continua lei a fare quasi meglio di Della Loggia, di Galli Della Loggia, tutto vero, questa ragione. Bruno, io sono meglio pure di lei, non di Galli Della Loggia. Sì, Parenzo. No, ma io faccio adesso perché deve cioè, le ha fatto un complimento, Parenzo, una bastonata subito. Io non lo conosco e non lo voglio conoscere. Vabbè, ma non è che sia un bandito, non è Totò Riina, Lo so. Dice lei che lo paragonare con Bruno è come Bernardo Provenzano. Cruciani, mi dica. La sua trasmissione guadagnerà un 30-40% in più se lei si disfa di Parenzo. Di Parenzo. Si disfa. Perché fa delle battute sciocche col suo risolino, col suo... Sì. No, non sa con chi parla, mo non sa con chi sta parlando, no? Però disfarsi di Parenzo è una brutta espressione, disfarsi di Parenzo. Cambio il catetere, a chi cambia il catetere? Vabbè, ma era una battuta. Era un omuncolo di fronte a me, scusa. Io che ho creato 100 posti di lavoro, cosa può essere Parenzo, lei mi deve dire. Vabbè, ma adesso non se la prenda, è una battuta. No, pure vabbè, lei, è una battuta. Pure lei non ma è stato... Ma lui vive di battute. Ma pure lei non è stato... Mi ha dato del lavavetri, mi ha detto io, tutto rispetto, mi figuriamoci. Non è che lei sia stato tenero. Se noi avessimo avuto il comunismo d'Italia, Parenzo sarebbe stato un lavavetri. Come molto probabilmente se lo sarei stato anch'io, Cruciani e tanti altri. Benissimo. Vedi il risultato dell'ideologia di Napolitano qual è stata? Ma che c'entra l'ideologia di Napolitano? Lei fa questo passaggio tra l'ideologia di Napolitano e quello che succede oggi, che è una cosa ridicola. Cioè, comunque, vabbè, Bruno, io l'abbraccio fortissimo, le voglio bene. Paolo grazie, da Roma. Buon lavoro, Cruciani. Grazie, anche Parenzo buon lavoro, aggiunga. No, ma anche io le voglio. Paolo da Roma, buonasera. Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori. Mi dispiace, non ho seguito, a parte questi ultimi minuti, non ho seguito la vostra trasmissione. Ma non c'è bisogno, lei faccia quello che vuole. No, lo so, ma non lo so perché non l'ho seguita. Perché non l'ha seguita? Perché sono... Che ha fatto? No, perché no? Perché come ritorsione personale nei confronti di quello che ho dovuto sentire ieri sera. Ah, per la storia di Saia. No, guardi, onestamente, Cruciani, ora lei non dico che ama fare il cinico o lo gioca a fare il cinico, forse lo è davvero. A fare il? Il cinico. Quello sì. Che non si meraviglia mai di niente. No, però lo sono sul serio, lo sono sul serio. Ma infatti, no, probabilmente lo è sul serio. Certo. Però io credo che con tutto il cinismo del mondo ci siano dei momenti in cui probabilmente il buon senso dovrebbe prevalere sul cinismo. Nel senso che, io penso di no, però comunque. No, no, voglio dire, invitare una persona di quel genere vuol dire automaticamente essere sicuri che vada a finire in quel modo, no? Cioè, poi lei dice giustamente che non ha responsabilità di quello che lui dice. No, ce l'ho in parte responsabilità, c'è sempre una responsabilità. Appunto, oggettiva. Anche perché se lei oggettiva, adesso non esageriamo, insomma. No, però voglio dire... nessuno è sciocco e pensa sì, ma io non è che l'ho invitato per far dire quelle cose sui cosiddetti mongoloidi come lui, lui li ha chiamati. No, una persona del genere crede, cioè lei mi vuol far credere che non ha la matematica certezza che vada a finire in quel modo. Certo che c'è una ragionevole certezza che vada a finire a insulti tra lui e Parenzo, non c'è dubbio. Per esempio, o anche peggio, insulti da parte sua nei confronti di persone che hanno bisogno di tutto tranne che di essere insultati. No, scusi, questo no, perché non è che posso prevedere che insulti in quel modo, o comunque insulti, che utilizzi espressioni non particolarmente appropriate. No, ma io sto dicendo, nel merito non posso prevedere nulla. Scusi un attimo, resti con me, c'è la borsa, torniamo subito. Siamo qui, sempre in diretta, la Zanzara su Radio 24, non finisce mai la Zanzara, 800 24 00 24. Paolo, sempre qua. Allora. Niente, comunque no, io non volevo farla troppo lunga, mi dispiace perché, ripeto, mi ha dato veramente fastidio, non so se io sia stato l'unico, credo di no. Ma il signor Saia è un personaggio oggettivamente fastidioso, un attimo solo. Chi è? Sindaco Emiliano, che è riunito insieme ai sindaci del Partito Democratico. Pronto? Signor Emiliano? Sì, chi parla? Buonasera, qui è la Zanzara. Radio 24. Dove sta? Dove si trova? Dove si trova in questo momento, signor Emiliano? Come oddio? Io? No, sono a Roma. Sei a Roma? Ma... Dove? Perché parla così col fiatone? Che è successo? Che è successo? Stiamo discutendo. Di che discutete? Non glielo posso dire. Come non me lo può dire? Lo sanno tutti. Stai discutendo del prossimo presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, dell'ANCI. Dell'ANCI? Ma voi avete delle intercettazioni ambientali abusive. E noi no. La stiamo intercettando, è una cosa gravissima, la stiamo intercettando abusiva. Scusi, ma le pare normale che il PD, da quello che ho saputo, vuole fare delle primarie per proporre il suo candidato alla presidenza dell'ANCI, che poi sarà il presidente? Dai. Ma è una sorta di primarie... pure per fare il presidente dell'ANCI, non le pare una follia? Mi dica la verità. Non gliela posso dire la verità. E come non me la può dire? Nel senso che siamo nel pieno di una discussione complicata. Capiterà anche in una redazione di un giornale che qualcuno non possa dire tutto quello che accade. Ah, ma certo, il mio mestiere è quello di tirar fuori però le cose che uno non può dire. La mia voce può descrivere una fatica che è quella fatica degli uomini che tentano di trovare delle soluzioni. Lei parla di fatica, allora per spiegare agli ascoltatori, mentre naturalmente siccome abbiamo intercettato questa telefonata, l'abbiamo chiamata al volo senza che lui lo sapesse, il signor Emiliano può chiudere quando vuole, può dire andate a quel paese e chiudere, può fare quello che vuole, lei è libero di fare quello al diavolo, no, ma lei può fare quello che vuole. Allora io dico solamente questo agli ascoltatori, dico questo: ci sono due candidati, caro Parenzo. Cosa che è normale, avere due candidati, no, poi un partito prende le sue responsabilità e decide per la presidenza dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani L'ANCI, che sarà sicuramente un candidato, cioè il presidente sarà del Partito Democratico. Il sindaco di Bari Emiliano è il primo cittadino di Reggio Emilia, Graziano Del Rio. Ora, innanzitutto io sarò parziale perché ho una simpatia per il sindaco Emiliano, però oggettivamente chi è tra i due, diciamo, a livello nazionale, chi è conosciuto di più? Il signor Emiliano o il signor, per carità, Graziano Del Rio, egregio, sì, primo cittadino di Reggio Emilia? Però non è questo il criterio, non sono elezioni pubbliche e né qui conta l'autorità delle persone. Graziano Del Rio è un sindaco, l'ho detto, il sindaco di Reggio Emilia, che è una delle città meglio amministrate d'Italia. Dopo Bari. Poi dopo, non facciamo confronti, però mi dica la verità, non è assurdo. Non sia conosciuto non significa che non meriti un ruolo. No, certo, no, ma infatti no, questo l'ho detto io, infatti, non è che l'ha detto lei. Però scusi Emiliano, diciamo la verità, non si può mascherare l'indecisione con questa cosa delle primarie. No, semplicemente noi siamo l'unico partito vero che c'è in questo paese e discutiamo molto, alle volte troppo, ma alle volte in questo caso troppo. In questo caso troppo. Carismatico che prende le decisioni, eh? In questo caso troppo? Un po' troppo. No, certo, domani bisognerebbe leggerlo e noi siamo ancora un po' stiamo ancora discutendo, però succede che le cose poi vengano decise proprio agli ultimi secondi. In Italia noi facciamo molte cose all'ultimo minuto. Però mi dica la verità, poi si discute, giustamente si discute, però quest'idea delle primarie, cioè di una specie di sondaggio, di mini sondaggio tra i sindaci. Ma adesso credo che questa cosa delle primarie sia stata un po' fraintesa, si tratta più che altro di una consultazione dei delegati in un momento di difficoltà e di incertezza, si vuole consultare i delegati, però non è neanche sicuro che questa cosa avverrà. Non è sicuro che avverrà. No. Insomma, domani ovviamente c'è una convocazione a Brindisi di tutti i sindaci delegati che devono prendere questa decisione su chi sarà il nuovo presidente dell'ANCI. Quindi domani è una giornata bella di grande democrazia, importante per la Puglia perché il congresso si svolge appunto. Ma il segretario con chi sta? Il segretario del Partito Democratico ha preso una decisione, ha un ruolo in questa decisione oppure no? Sì, immagino, no? Il Partito Democratico ha una posizione che però non sta a me rendere pubblica. Come no? Ce la dica, qual è la posizione? No, perché come si dice, io sono interessato alla vicenda. Quando uno è interessato fa bene a comportarsi correttamente anche col proprio avversario, perché sennò fa la figura di quello che approfitta. Ma lei si sente sicuro, no? O no? No. No. Guardi, sentirsi sicuro è la migliore delle situazioni per fare una brutta figura. Per essere fregato. Però ci tiene, però diciamo che ci tiene. A questa cosa che sia un onore grandissimo per chiunque faccia il presidente dell'ANCI, è un onore grande, molto grande. Le primarie per fare il presidente dell'ANCI, ti rendi conto? È un po' strano, è una follia. Noi della Zanzara però cerchiamo una cosa, no? Cosa? Presidente! Presidente! No, che così se lo vengano a sapere mi... se voi siete no, ma non devono sapere. Ma dove si trova adesso? Si è distanziato? È un segreto. Avete finito queste riunioni o no? Sono nella sede dell'ANCI. Ah, il presidente. Nella tutto sede tranquillamente trasparente. Guarda, vada nella stanza del presidente dell'ANCI. Io ho fatto tanti anni il magistrato e tanti anni il sindaco. Sì. Ho l'impressione che le cose in Italia siano molto più semplici e banali di come vengono rappresentate. Stiamo semplicemente discutendo come si fa in qualunque associazione. Ci passi qualcuno che è lì. Per esempio, mi piacerebbe che la scelta di un direttore di un giornale fosse seguita in modo democratico come quella del presidente dell'ANCI. Però mi scusi, la scelta direttore del giornale, mi scusi. Che il direttore di un giornale è importante tanto quanto il presidente dell'ANCI. Sì, ma Emiliano, lei si immagina... Emiliano, scusi, il direttore di un giornale... Della sera, il Corriere della Sera, i giornalisti... Però mentre noi siamo esposti, diciamo, giustamente alla verifica democratica, alle volte... L'editore questa scelta se la fa per i fatti suoi, quella sul direttore, eppure può cambiare anche la storia di un paese. Sì, d'accordo, però io me lo auguro. Perché, sono due cose diverse, sono due cose molto diverse. Beh, le autonomie locali e la libertà di stampa sono due elementi fondamentali, sì, però no, mi permetto di dire che la libertà di stampa viene prima di tutto, perché senza di quella... tutto il resto del castello della Costituzione non funzionerebbe. Senta, ma è vero che quando che lei ha detto che non si ricorda una misura adottata da Vendola, che gli elettori non se la ricordano, una misura adottata da Vendola in Puglia come governatore? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Vendola deve com'è che stasera lei è troppo diplomatico, è vero che l'abbiamo chiamata. Sì, avete beccato forse facendo una figura da cane. Mi è troppo diplomatico. Che sto parlando con voi e devo essere diplomatico. Stasera deve essere diplomatico. Stasera deve essere diplomatico. Vabbè, comunque noi le facciamo per l'attenzione che ci date, comunque, perché è un momento come al solito faticoso, come ho detto prima, ma anche di grande democrazia. Sì. Però ci faccia l'ultima gentilezza. Lei lo sa che gli italiani non hanno alcuna idea di che cosa sia l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Lei lo sa bene. Invece io credo che lo sappiano. È l'associazione che riunisce tutti i sindaci, perché lo so, se i sindaci non avessero l'ANCI sarebbero in balia del vento, cioè chiunque potrebbe abusare dei cittadini. Ho capito, ma allora il Partito Democratico si dia una mossa, non le primarie, no due candidati. Il Partito Democratico si deve dare una mossa in generale, non solo su l'ANCI. Anche su questo. Vabbè, grazie sindaco. Grazie a voi per l'attenzione, arrivederci. Buonasera. Bocca al lupo. Massimo da Pistoia, buonasera. Buonasera. Dica. Posso? Sì, dica. No, senta, io seguo sempre la vostra trasmissione quando posso, ma è un suggerimento, perché visto che lei ha un punto di vista un po' privilegiato dal punto privilegiato, di essere, rispetto a chi? A parlare con i politici, cosa che noi ascoltatori non riusciamo a fare. Magari qualche piccola domanda anche per conoscerli meglio, questi una volta si chiamavano peones, erano quei diciamo deputati onorevoli senatori di seconda fascia, no? Che non appaiono molto spesso in televisione, ma fare domande un pochino, magari capire per esempio come hanno votato quella famosa mozione alla Camera del 23 settembre del 2010 che prevedeva l'abolizione del vitalizio, che poi invece hanno solo 22 l'hanno. Oppure un'altra domanda del tipo se sanno appunto che c'è stato un referendum che ha abrogato il finanziamento pubblico ai partiti nel 92, mentre invece anche per conoscerli meglio, perché fondamentalmente queste persone sono state elette ma nessuno le conosce, perché le liste bloccate non c'è una possibilità di sapere poi fino a fondo chi ci rappresenta, e quindi sapere un pochino come la pensano su temi un pochino scottanti di oggi, con quali quelli dei costi della politica, che magari... Ma sì, Massimo, è un'idea, si possono certamente fare tante domande, tra cui queste qua, cioè, però si rischia, Massimo, sì, noi cerchiamo sempre di stanarli, naturalmente, magari non sulle cose che interessano a lei, o magari su altre cose, certamente sui vitalizi quando capita l'occasione facciamo domande, però non è che ognuno dei deputati che vengono qui diciamo scusi, lei è a favore o no del vitalizio, perché se avrebbe una discussione infinita sui vitalizi, oppure se ha partecipato a quella votazione o meno, sulla questione del referendum a finanziamento pubblico ai partiti, io si figuri, sono contrario a qualsiasi finanziamento pubblico ai partiti, per cui bisognerebbe tagliare tutti i finanziamenti pubblici, per cui sono contrario al vitalizio così com'è strutturato adesso per chi ha già un altro vitalizio. La ringrazio, Massimo. Davide dalla provincia di Venezia. Davide? Pronto? Sì, buonasera. Pronto, scusi, stavo facendo da mangiare. Che cosa sta cucinando? Dunque, è una cena sarda, diciamo. Una cena sarda. Beh, interessante. Allora, in provincia di Venezia, perché lei ha origini sarde? Sì, no, non ho origini sarde, sono stato in vacanza in Sardegna e stasera se facciamo una cena, una sorta di cena di revival, così. Esatto. E qual è il piatto principale? Dunque, il piatto principale sono gnocchetti sardi con la bottarga di tonno e le vongole, diciamo, perché questo è buono. Abbiamo ottimo, direi. Va bene? Sì. Okay. Però io non ho chiamato per questo. Arrivederci, grazie. Allora, senta una cosa. Io, siccome ho sentito un po' di cazzate stasera, no? Deve riconoscerlo che ne avete dette parecchie. Ma no? Adesso non esageri, insomma. Metto le mani avanti, vi voglio bene a tutti e due, a lei a Parenzo, vi amo tutti e due profondamente. Meno male, siamo contenti. Ecco, allora, io volevo proporre il cambio del giorno della festività nazionale della liberazione. Sì. E, cioè, quando cadrà Berlusconi o quando morirà per morte naturale, si potrebbe istituire appunto quella data come giorno, come festività nazionale per la liberazione. Poi un'altra cosa, questa è una cazzata, no? Poi invece volevo fare un appunto. Cioè, non ho capito, quale sarebbe la sua festa della liberazione? Quando Berlusconi cesserà di influenzare, insomma, le nostre. Beh, cioè quando è, quando no, lei vuol farmi dire quando morirà. Dico, però per morte naturale, non è che cioè lei vuole fare il nuovo giorno, è la cazzata delle 20:45, che dice il parlamentare lì che avete sentito prima, che insomma mi permetta una cazzata anche. Beh, questa è bella grossa, direi. Okay, la nuova festa della liberazione è il giorno della morte di Berlusconi. Sì, benissimo. Sì, invece volevo fare un appunto proprio a una cosa che lei ha detto, però è passata un attimo così, non c'è stata risposta. Lei ha detto a quel parlamentare di prima, una personcina piuttosto così strana, piccolina, no? Ha detto: secondo lei l'Italia è pronta per un presidente del Consiglio omosessuale? Allora, secondo me questa cosa è veramente è pesante, perché sa, dopo che abbiamo un puttaniere, no? Sì. Dopo che siamo abituati a sentire tutte le cose che sentiamo ogni giorno, no? Io mi sto mettendo sul piano della sua domanda. Sì, non, ma guardi che la mia domanda è ironica, la cosa. Lasci perdere. Ho capito. Un attimo, solo. Io spererei che ci fosse un omosessuale, perché ci sono dei valori veramente molto più alti rispetto ma non me lo deve spiegare a me. La domanda è per lei, però. Sì, ma è per ottenere un certo tipo di risposta. Se lei non l'ha capito, io non ci posso fare nulla. Ha capito? È evidente che alle volte si fanno delle domande solamente per fare delle domande, per non avere delle risposte, perché si insiste a un certo punto. Quell'omino piccolo che è intervenuto prima, a quell'omino bisognava anche dire che un professore a scuola ha tutto il diritto di dire ai suoi studenti, se è un professore con la testa sulle spalle, che c'è un governo del cazzo che sta governando il paese. Lei ha bisogno di qualcosa stasera. Di che cosa ha bisogno stasera? Io lo spiego tra qualche secondo dopo il traffico. Io lo spiego per davvero. Signor Davide della provincia di Venezia, stasera ha bisogno di qualcosa. Eccoci. Allora, Davide della provincia di Venezia. Davide della provincia di Venezia ha detto due cose inaudite. Una. Anche lei l'ha definita una stronzata. No, una cazzata. Una cazzata, ancora peggio. E cagate dopo. Detto. Sì, vabbè, adesso non esageriamo, insomma, non mettiamo in fila tre cose di seguito. D'accordo, precisi, puntualizzi. Che vorrebbe istituire la nuova festa della liberazione il giorno in cui morirà Berlusconi. Prima. No. Come no? Sia preciso, io ho detto il giorno in cui morirà di morte naturale o nel momento di morte in naturale, cui cadrà. Appunto. Lasci perdere, che io non è che gliela tiro. La morte naturale, d'accordo. Tanto adesso. Che cacchio, non è d'accordo. Mica. D'accordo, guardi, sta cercando di far diventare seria una discussione che è surreale. Intanto sta partendo. Ma è surreale tutta la trasmissione. Insomma, io vi voglio bene comunque. Ma è surreale che cosa? Cosa è surreale? Non è surreale nulla. Ma ascoltatevi ogni tanto. Escono notizie da qui, caro Davide. Se lo tenga bene in mente. Guardi i giornali, guardi i siti, tutto. Ci mancherebbe altro. No, oltretutto, allora, prima cosa, la seconda anche cosa. Parenzo ha detto una bella domanda. Secondo me Parenzo, che è un attimino attento a queste cose, sarebbe dovuto intervenire un po' più criticamente su quella domanda, non tanto dire bella domanda, non è una bella domanda, la risposta era interessante, però non avete avuto. Ma beh, è bello queste lezioni, vostro, queste lezioni, Davide. Chiediamo perdono. Chiediamo perdono. Io voglio bene. E appunto lei ci però la follia che lei ha detto sugli insegnanti, quella è una follia. Ah, gli insegnanti, scusa, mi sono dimenticato gli insegnanti. Fate partire l'ambulanza. Fate partire l'ambulanza, vi prego. Eccola qua, l'ambulanza ci vuole stasera. No, ma vi do l'indirizzo perché bravo, che bravo. Mi dica l'indirizzo preciso. No, provincia di Venezia, dov'è l'indirizzo? Che ne sappiamo noi, Davide? Mica Venezia, Marghera. Marghera, il 118, c'è anche la questura. Benissimo, no, perché lei ha detto agevoliamo l'arrivo. Bisogna che gli insegnanti che la sparano su Berlusconi o comunque che dicono che questo governo fa schifo eccetera abbiano la possibilità di dirlo in classe. No, ho riassunto, Davide, adesso non mi faccia. Così. Io ho detto che un insegnante ha il dovere di dire ai suoi studenti se in questo momento, in qualche momento, se il governo che ci sta portando avanti è un governo incompetente. È una follia questa, lo sa. Lei lo sa che è una follia. È una follia, ma cosa sta dicendo? Lei lo sa che è una follia. Scusi, ma perché secondo lei un insegnante non ha il dovere di formargli... non è che entra a fare una lezione di politica. Non deve fare lezioni di niente un insegnante, allora, scusi. Ma un insegnante è un insegnante di italiano, di educazione fisica, di greco, cosa c'entra? Di storia contemporanea, di storia. Di educazione, allora, che ne so, di moralità. Sì, di moralità, ma dove di moralità, ma di moralità allora, dove? La moralità no. Allora diciamo che il nostro Presidente del Consiglio potrebbe tranquillamente insegnare in una scuola elementare. Ma no, che c'entra questo? Ma cosa c'entra? Lei è il che centrismo. Ma può darsi, ma non c'entra niente questo qua, non c'entra assolutamente nulla. Io sto dicendo una cosa, Davide. Lei dice qualcosa ben altro. Sì, questo è un altro discorso, il benaltrismo è un'altra cosa. No, il checentrismo l'ha inventato lei e ha inventato anche lei. Troppa grazia, Davide. Però io le dico una cosa, gli insegnanti oggi... Che Parenzo le venga dietro. Perché Parenzo? Guardi, Parenzo mi viene dietro solamente non quando si nessuno, trattasi di follie. Non parli sopra. Mi dispiace che Parenzo le venga dietro, perché almeno quando c'era Telese alzava la voce, infatti è stato cacciato via, no? Da qualcuno. E chi è che l'ha cacciato via? Ma nessuno l'ha cacciato via. Ma dai, che nessuno l'ha cacciato via. È come quando... Lei è paranoico. Ricorda il vecchio direttore di Radio 24. Paranoic. Ma perché dovrei sostenere? Ma che ne so, sì, ma di che stiamo parlando? Dai, di cosa parliamo? Ma non sono io che sono paranoico. Ma di che parliamo? È andato via Sant'Almano. Ma certo che lo so benissimo, ci sono una serie di motivi che sarebbe lunghissimo spiegare, cioè ma abbia no, pazienza. Non è molto lungo spiegare. Ma che ne sa lei? Ma cosa ne sa lei? Che ne sa lei? Voi avete risposto per email, ma non chi ha risposto per email? Ma chi? Non posso fare appunto, allora di che stiamo parlando? Vabbè. Allora mi dia il numero di telefono, glielo dico per privatamente, non posso dirlo per radio, no, quello che ho sentito. Vabbè, Davide, abbia pazienza. Lei è molto... Ma c'è mica perché un insegnante non deve poter dire ai suoi studenti che qualcuno in maniera così così molto sportiva governa il nostro paese. Ma non è tra i suoi compiti, perché non può dirglielo. Ma perché ma non può... dice che non è sui suoi nei suoi non comodi. È nel programma dell'istituto, ma che dice? Ma non dica cose inaudite, sta dicendo delle cose inaudite, Davide. Sta dicendo delle cose scomode, non inaudite. Ma che scomode, ma lei non sa nemmeno che cosa sia una cosa scomoda. Perché se no mi avreste messo sul telefono, come fate? Ma noi ci piace discutere e combattere. No, ma io vi voglio bene. Meno male, pensi che ci voleva male. No, sto ma scherzando. Lei mi conosce bene, sa, perché ci siamo già sentiti diverse volte, non andiamo mai d'accordo su niente. Meno male, modo, sono contento. Ad ogni modo non mi ha mai messo giù il telefono, questo è un gran vanto per me. Grazie Davide, grazie. Non per lei, arrivederci. Non per me, va bene. Emanuele dalla provincia di Ancona, buonasera. Per concludere, signor Emanuele. Io chiamavo per un argomento, poi sentendo i vari ascoltatori... Vabbè, ma non si preoccupi, vada... No, volevo un attimino prendere le sue parti, tra virgolette... Non c'è bisogno. L'ascoltatore di prima di Milano che l'ha tacciata di essere passato una trasmissione media... Ma cosa c'entra? Ma non so... È molto qualunquista, perché lei... Vabbè, poi... No, io dico, forse la cucina... sarda un po' pesante, perché sentendo le stronzate dell'ascoltatore di prima mi viene questo. Però devo chiudere, Emanuele, lei doveva essere più sintetico. Ci sentiamo domani anche con lei e con gli altri. La Zanzara torna domani come al solito, caro Parenzo, 18 ciao, e 30. Ciao. Ciao, buonanotte. Ciao. Buonanotte. Crociale la fa culo, stronzo e crociale. Io preferisco quello alla droga, quello all'alcol, quello a tutto quello che ti pare, cioè non fa, non vai mai in overdose di figa, ragazzi, dai, diciamola com'è. La patonza deve girare. Radio 24, la passione si sente.